Ti prego, Cruciani, inizia in fretta che non ne possiamo più di sentire Barisoni. Basta! Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sebastiano Barisoni e il suo Focus Economia sono l'antifiga per eccellenza. No, io non posso entrare in macchina, bloccarmi nel traffico e sentire Barisoni che parla di vacche e latte, di quote latte, basta! Datemi la zanzara, Cruciani, dove sei? Cruciani! Sebastiano Barisoni fa rima con rottura di coglioni. Davide, mi fai spiegare due o tre cose a questi pazzi che mi stanno minacciando di qualsiasi cosa sulla questione del coniglio? Sì, per carità. Allora, una cosa molto semplice, molto chiara. Volevo dirti, ma è opportuna tutta questa cosa qui iniziale con queste... Cosa? No, queste cose, questi giudizi. Perché sì, io non ho sentito niente, che è successo? Hai sentito qualcosa? Non voglio fare il coniglio, così ti introduco al tema, ecco. Non voglio certo fare io il coniglio. Allora, molti parlano di coniglio scuoiato, di coniglio portato qui per esibizionismo, eccetera, eccetera. Due concetti molto, molto semplici. Per i signori animalisti della LAV o di altre associazioni, per chi dice che mia madre deve morire, che io devo essere... Sì, ma qualsiasi cosa, dopo ti leggerò tutti i messaggi di insulti e minacce di morte, anzi auguri di morte che mi sono arrivati dei signori animalisti o pseudotali. Poi ovviamente è il web, ma chi se ne frega, io mica vado in procura come fa... Ma chi se ne frega, non se vado... ma assolutamente, figuriamoci se vado dai carabinieri come fa la Parietti. Ma questa gentaglia deve capire che non possono scrivere... No, non è gentaglia, è gente che... Gente ma malata, vabbè. Ma non si può minacciare. Però aspetta. Due cose molto semplici. La prima cosa è questa. C'è una campagna pubblica. Una campagna pubblica di due associazioni animaliste. Una è la LAV, l'altra non mi ricordo bene come si chiama. È Animal Equality, una cosa del genere in inglese. Due associazioni che vogliono togliere dalla tavola degli italiani. Cosa per me gravissima. Poi ovviamente si può essere d'accordo o meno. Il coniglio, che è una grande tradizione culinaria italiana, in particolare della mia regione, ma non solo della mia regione, che è l'Umbria in parte, eccetera, eccetera. E a una campagna pubblica come quella della LAV si risponde con una campagna. Io ho questo strumento, altri hanno altri strumenti, eccetera, eccetera. Dunque, qui si è portato un coniglio regolarmente comprato, ancora si può, non è un delitto, non è un reato. Regolarmente comprato da un macellaio, regolarmente comprato, no, non un coniglio vivo scuoiato qui, un coniglio comprato per 12 euro da un macellaio in via Tolstoi a Milano. In via Tolstoi a Milano, non vi dico quale, sennò qualche stronzo pensa di andare a minacciare questo macellaio. Portato qui e poi fatto cucinare, come avviene nelle case di tanti italiani. Questo è il punto fondamentale. Ovviamente c'era un messaggio che durerà tutta la settimana, rivolto ai signori della LAV, a tutti quelli che minacciano, agli animalisti, eccetera, eccetera. Noi vogliamo continuare a mangiare il coniglio. Poi se non avverrà, se passerà la legge che equiparerà il coniglio a un cane, a un gatto, chi se ne frega? Faremo a meno certamente del coniglio, non morirò senza coniglio. Però finché avrò la possibilità di dirlo, sosterrò questa cosa, che mangiare il coniglio è una cosa normale, normalissima, e quelli che pensano di abolirlo, per me, insomma, qualche rotella in testa non è che gira bene, eh. A Cruciani, questi animalisti hanno davvero rotto il cazzo anche con il coniglio. Allora facciamo una cosa, non mangiamo neanche più il maiale perché ai bambini piace Peppa Pig, ma che andassero a fare in culo. Cruciani, vieni a Vicenza che ci mangiamo un bel gatto, sai, di quelli belli cicciotti ingrassati bene, sono buonissimi. Praticamente vogliono interrompere una lunga tradizione bergamasca dove la domenica mattina si mangia il König con la polenta. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Mia suocera mi sta sui coglioni, ma fa un coniglio con i funghi che è fantastico. Ah, Crucia col coniglio, se avessi avuto i coglioni l'avessi portato vivo. Vivo, poi non l'avresti fatto vedere, ovviamente, perché quello non si può vedere. In un'altra stanza te l'avresti fatto uccidere, gli avresti fatto togliere la pelliccia e l'avresti portato in studio, poi è morto. Però prima dovevi portarlo vivo, perché così è troppo semplice il macellaio morto. La prossima volta lo voglio vivo prima. Cruciani, la verità è che la maggior parte dei vegani, animalisti e tutti questi stanno morendo di invidia sentendoti mangiare quel coniglio. Si sentiva quasi anche l'odore da come lo mangiavi. Cruciani, sei blasfemo. Tutti gli animali sono creature di Dio e tutti quelli buoni vanno mangiati. Il coniglio, il cane e il gatto sono uguali e io me li mangio tutti. Sebastiano Barisoni fa rima con rottura di coglioni. Guarda, questa volta non sono io, sono questi dietro il vetro, questi stronzi dietro il vetro che mi rompono le balle. Prendo le distanze. Ma no, ma lo mettono apposta, noi tagliamo i messaggi che arrivano agli ascoltatori, ma lo mettono apposta qua dietro per farmi litigare con Sebastiano, dai, su. Dai. Allora, Vittorio Zucconi contro Daniela Santanchè. Partiamo così, dai. Noi abbiamo il diritto, signora, stia buona per un momento, stia buona per un momento che poi le si scola. Abbiamo il dovere di distinguere, abbiamo il dovere di distinguere proprio perché abbiamo valori e culture. Oh, è come avere una zanzara dentro un bicchiere. No, per favore, Zucconi, finisci. Finisco dicendo che io ho il dovere. Stia tranquilla che le si scolla il trucco, signor Zucconi. Però adesso non bisogna nemmeno esagerare, non è che è un'offesa personale. Cioè è un modo di dire come a qualcuno ti viene la vena, no? Ti si scolla il trucco. Certo, non è bello nei confronti di una donna, quello che volete, ma non saremo certamente noi a dare lezioni di bon ton al signor Zucconi. Al signor Zucconi. Allora, posso dire una cosa per quello che riguarda la vicenda della scuola di Rozzano, della festa di Natale? Il preside si è dimesso dal suo incarico, ha anche scritto una lettera in cui dice che in sostanza ha solamente proibito a due mamme che volevano fare dei canti religiosi di Natale durante il periodo, l'ora di pranzo, per motivi di opportunità, eccetera eccetera. Allora, lo Stato italiano dovrebbe proibire qualsiasi espressione religiosa, qualsiasi simbolo religioso all'interno di una scuola. Dovrebbero addirittura. Sì, secondo me sì. Ma se però un bambino vuole andare con la kippa in testa, ma non lo so, o col velo, perché non dovrebbe andare? No, secondo me vanno proibiti i simboli religiosi all'interno della scuola pubblica, male? All'interno della scuola pubblica. Però detto questo, il preside di Rozzano ha fatto una campagna, no una campagna, ha preso questa decisione sulla base di una cosa di motivi di opportunità, la paura, l'Islam, eccetera. Allora, o decide lo Stato, e secondo me dovrebbe decidere in un certo modo, oppure non è che uno arriva e decide di proibire i canti di Natale perché hanno i canti cristiani di Natale perché gli altri si possono offendere. Questo lo trovo ridicolo. Cioè, o fai una campagna per la laicità della scuola, vai davanti al ministero dicendo che non vuoi i simboli religiosi, e io ti posso anche appoggiare, perché per me va bene come si fa in Francia. Però non sulla base del momento, del timore, di quello, perché sennò ognuno fa come cavolo vuole, no? No, tra l'altro ci sono dei musulmani a Rozzano che sono a favore della festa di Natale. Sentite, sentite. Sì. sono venuto a Bossa a parlare con lui, c'è due figli qua io. E lei è musulmano, giusto? Sono musulmano, sì. Io non sono d'accordo di questa, perché questa che sono venuto a Bossa a parlare con lui. Perché anche noi festeggiamo Natale, anche noi festeggiamo la festa di Gesù. Non c'entra niente quella che sta dicendo il presidente. Che mi ha detto la mamma che il presidente deve annullare la festa del Natale ai bambini. Ma non sono d'accordo, non va bene. Vabbè, questo dice che tutto si basa sul fatto che lui vuole annullare la festa di Natale, ma non è così, sembra non essere così almeno. È lunedì, Matteo Salvini, ciao Matteo! Buon lunedì a chi è in coda. Vai, vai. Allora, Parenzo, che ha fatto Salvini oggi? È andato a Rozzano col presepe? No, a Rozzano a fa sta pagliacciata. Ha sequestrato Gesù bambino. Vorrei che la magistratura fosse allertata. Perché? Per sequestro di Gesù. Ha sequestrato Gesù. Ma che vuol dire? La Lega ha sequestrato Gesù. Cioè sta strumentalizzando il povero Gesù nella sua essenza. Ma nella perché sua dici essere. Perché uno... ma come perché, ma lui perché sostiene che vanno messi i crocifissi all'interno delle classi, è ma contrario, insomma, al preside, questa è una discussione che va fatta, ma allora in un altro tutto momento, allora non si può parlare, allora non si può parlare di niente. Ma non si può sequestrare Dio, c'è un partito politico che sequestra, vabbè, Dio, lo fa proprio apparentemente per difendere, come dire, la tradizione. Vabbè, fai rispondere Salvini, altrimenti no, fai il comizio, comizio. Matteo, come rispondi a Parenzo? Va bene, deve aver passato un weekend impegnativo, se no, si parte con queste cavolate straordinario del lunedì sera. A vedere mamma mia a Milano agli Arcibaldi, ottimo teatro. Un risvolto positivo di questa vicenda tragica, cioè, nel senso che questo preside è inadatto a fare il preside, dovrebbe cambiare mestiere, dovrebbe essere licenziato. Licenziato però, addirittura? Ma assolutamente sì, perché se il ruolo di educatore e di... conoscitore delle differenze, di valorizzatore delle differenze, è questo, cioè togliere, negare, proibire, vietare, ha sbagliato lui mettere, dice però l'unico diniego che ho posto riguarda la richiesta di due mamme che avrebbero voluto... Ma ti pare normale che uno leghi la strage di Parigi e tu scendi dalle stelle? Cioè, siccome a Parigi hanno ammazzato 130 persone urlando Allah è grande, allora diciamo no alle mamme perché facciano cantare i tu scendi dalle stelle. No, ma infatti questa è una cazzata. Ti pare equilibrato? No, questa... un discorso cioè, da uno che ha una centinaia di bambini sotto la sua responsabilità. Cioè non è una persona equilibrata secondo te? No, no, è nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Comunque dicevo, un merito ce l'ha. Qual è? Io appunto chiamato dalle mamme sono andato lì e poi ho visitato la scuola materna. È un disastro, ho visto le immagini, è un disastro. E le ho pubblicate su Facebook. Il problema lì non è il canto, il presepe o Gesù bambino che torna al suo posto. Il problema sono le porte che non esistono, i tetti che crollano, le lavagne. E vabbè, quello lo sappiamo, purtroppo, la scuola pubblica. Perfetto, ma domanda numero uno, dov'è la buona scuola? Non c'era un fenomeno che aveva promesso di dare soldi a tutte le scuole. Vabbè, ma quello adesso non... Vabbè, questo, su questo fai qua a Rozzano. Secondo, il preside, più che preoccuparsi del presepe dei canti, non dovrebbe preoccuparsi delle porte, delle e magari aule, non c'ha i soldi, mica li mette lui i soldi. Chiedili, c'è il sindaco del PD, tira fuori i soldi, c'è un ministro, c'è un presidente del consiglio la cui moglie fa l'insegnante, mi piacerebbe che parlassi con le sue colleghe di Rozzano. Vabbè, comunque Parenzo dice che tu hai sequestrato... No, lui fa un uso politico di Gesù. Ma figurati te, questo... Uso politico di Gesù, è una cosa politico, incredibile, quasi teocratico. Se uno tace e non va bene che taccia, se uno si muove non va bene che si muove, io sono contento, ma non per questioni religiose. Ripeto, ognuno può credere nel Dio che vuole, festeggiare le feste che vuole. Lo diceva Croce nel 42. Vabbè, tu l'abbiamo già detto, tu vuoi mettere il crocifisso in ogni scuola. È tradizione, no, crocifisso. Natale è la festa più bella del mondo. Io da bambino l'aspettavo per mesi. Cioè, lui dice non dovrebbe fare le ferie allora se la pensa così. Cioè, non dovrebbe fare nemmeno le ferie. Per lui il Natale non esiste, vada a lavorare anche il giorno di Natale e anche il giorno di Santo Stefano. Detto questo, penso che la ragione avrà la meglio. Bambini italiani e stranieri festeggeranno il Natale come giusto che sia e spero che il preside cambi mestiere. Fermi tutti, traffico. Sì. Amici camionisti, ascoltate la Zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la Zanzara. Giunto il ridicolo su questa vicenda, Parenzo. Attenzione, oggi alcuni... abbiamo sequestrato Gesù per motivi politici. chiediamo il riscatto a tutti i presidi italiani. Uno però italiani. Fa politica come sono vuole. Sono Bitonci, questo... sindaco di Padova. Ho sequestrato Gesù. Ma perché? Che vuole fare Bitonci? Che vuole Bitonci fare? Ha appena detto oggi sì. che vuole controllare che nelle scuole si rispetti il Natale. Bitonci, non ti mettere a posto i tombini o le strade. Beh, o magari pensare fa anche quello, alla no? Tenta di fare no, anche quello. No, bisogna verificare che le scuole festeggino il Natale. State sequestrando Dio. Blasfemi, vabbè. Blasfemi, blasfemi. Vabbè, però oggi si è arrivato al paradosso che addirittura esponenti di Forza Italia e altri di altri partiti di centrodestra erano messi a cantare Tu scendi dalle stelle. Hai cantato anche tu, Matteo, Tu scendi dalle stelle davanti a scuola? No, sono stonato e porto rispetto. E Gesù quando è nato? Scusa. Dove è nato Gesù? No, no, perché siccome tu dici non si può non dirsi, non possiamo non dirci cristiani. Il 5 dicembre in quel di Betlemme. Ah, Betlemme, almeno questo, almeno su questo ci siamo. Sì, e nel presepe che c'è? L'ho frequentata. Nel presepe che ti do questa scusa, farò il re maggio al presepe vivente dell'asilo no. di mia figlia. Che ma fai veramente? Il re maggio? Sì, non so quale dei tre. Però. Non chiedetemi a me di fare no, ragazzi, Giuda perché questo, sarebbe di cattivo gusto. Io però, questo qua è da venire. No, lo dico a Salvini. No, chiedete a me di fare Giuda perché sarebbe di cattivo beh, gusto. Beh, questo effettivamente sì, effettivamente sì. Sarebbe da parte però tu quando è posso la... fare l'asino se però vuoi, quando sarà questo appuntamento strepitoso? Ma no, Bitonci, perché non fa Bitonci no, l'asino? Lascia perdere che poi c'è qualche fenomeno di sinistra che va a dire che strumentalizzo pure i re maggi. Beh, scusa, adesso non lo so questo qua se ci sarà qualcuno eccetera, però farai il re maggio alla festa di tuo figlio a scuola. Beh, sito può portare l'oro se vuoi. Oh signor, ma mettetelo a tacere, mettetelo a tacere. Sostenitore di un governo incapace e pericoloso. Dalle stelle ore del... Però io sono ateo eccetera, però non è una cattiva canzone, non è una brutta canzone. Bellissima. Questa, Parenzo, ma il Natale è bello, è gioia. Dai, cantala anche tu, Parenzo, cantala anche ma tu. Ma io all'elemento, ma perché sono dai, tu che sei ebreo, io. Dai, che ti frega, dai. Ma che bisogno, io tu sei, che sei di quelli che dicono tutto tous ensemble. No, ognuno con la sua identità, io posso cantarti una canzone di Hanukkah se dai. Vuoi. Comunque, la notizia incredibile è che Salvini farà... No, ma incredibile, scusa, è pieno di mamme e papà che fanno le mamme e i papà, ma nei paesi, nelle valli, sì, nei no, comuni, nelle città, ci e sono presenti farà l'asino. Straordinari da nord a sud. Ma ho capito, ma è incredibile, tu farai il re maggio, cioè quando sarà questo evento incredibile dobbiamo convocare tutte le telecamere sì, di tutto il mondo. Per piacere, no. Ma ci mancherebbe altro, anzi cancella quello che ho detto quando mai te l'ho detto, lasciamo stare i bambini. Almeno sotto Natale o sotto Santa Lucia, perché c'è qualche comune, ad esempio, dove però i nostri sindaci papà, della Lega devono litigare con dei presidi, perché non vogliono neanche festeggiare Santa Lucia, perché in tante città i regali li porta Santa Lucia. Il 13 guarda, dicembre. Per me nelle scuole italiane non va messo nulla. Questa ma è la mia idea di fondo. Sbagliato. Vabbè, che ti do per chi ce l'ha, io ne vorrei avere di più. Comunque è qualcosa che dà un senso all'intera esistenza. Comunque, scuola di Milano. Non togliamo. Ma non mi dire un bravo papà, perché un papà che si presta veramente dal punto di ma vista ma te ti commuovono umano... queste cose. Ma certo sì. Che dovrebbe essere, no, che deve fare? Deve sgozzare il figlio, no, che deve fare? Non lo so. Perché si presta a fare, tu non lo faresti mai, ad esempio. Tu no, sei francamente no. Posso dire a proposito di conigli, vi sentivo prima che a Strasburgo fra le vari deliri, settimana scorsa ci hanno fatto votare un documento sul benessere degli animali. Sacrosanto, per carità di Dio, io mi sono permesso di votare contro un emendamento che tirava in ballo il benessere delle ostriche e dei dromedari. Eh sì, anche al comune di Milano hanno fatto un regolamento piuttosto bizzarro. Secondo me è sacrosanto. Ma tu lo mangi il coniglio o no? Lo mangi il coniglio o no? Ah, se me lo cucinano sì, assolutamente. Beh, se buono. Te lo cucino, non è che te lo cucino in automatico, lo dovrei chiedere il coniglio, cioè, nel senso ti piace il coniglio, sì? Sì, sì, buono, io adoro. No, ma c'è qualcuno che lo vuole vietare? C'è qualcuno che vuole vietare il coniglio a tavola? Capisci? Associazione di maniche e controllare gli allevamenti vabbè, dei ma quello, vabbè, intensivi che non mettano. Ma quello per forza sono intensivi, però. L'ingrasso, per carità di Dio. Ma quelli sono per forza intensivi gli allevamenti, altrimenti non si riesce ad arrivare alla produzione. Ecco, però anche un certo tipo di pollo fatto crescere, ingrassato in una certa vabbè, ma maniera. Ma ci sono le regole, ci sono le norme che proteggono queste cose. Il benessere dei dromedari, delle ostriche non. Comunque tu vuoi mantenere il coniglio tra le pietanze degli italiani, questa è la... chi lo vuole lo mangia, chi non lo vuole non lo mangia. Adesso, dobbiamo mangiarci. L'Europa ci ha chiesto di portare in tavola grilli, insetti e alghe. Il re mago animali, mi dice Mauro insetti. Corona che si dice re mago, non re maggio. Il re maggio grande Mauro, se ci ascolta lo abbraccio, ci ascolta ecco, sempre. Io renderei obbligatori i libri di Mauro Corona alle scuole superiori. Vabbè, adesso no, obbligatori, questo può essere questo, anche giusto. Questo va bene, per carità, perché parlano di obbligatori o niente, di però obbligatori o niente, io sono no io vorrei una società un po' più ordinata, dove ma che vuol dire più ordinata? Mauro Corona e Oriana Fallaci, libri di testo ma obbligatori. No. Travaglio ha detto che la Fallaci non è una grande giornalista, è una che voleva Travaglio, prima di parlare di Oriana Liliana Fallaci dovrebbe farsi degli sciacqui che durino tre quarti d'ora. Dovrebbe pulirsi la bocca, dici? Dovrebbe pulirsi la bocca. Sì. Deve sciacquarsi. Assolutamente no, sì. Sciacqui può essere tante cose, sai? No, sciacqui, sciacqui col colluttorio. Ah, col colluttorio. Dentifricio. Senti, dentifricio. Però a Milano, per quello che riguarda il sindaco, mi sembra che siamo al punto di partenza. Cioè, nessuno lo. Innanzitutto. Qualcuno, no, dibattito. Nessuno. Però nessuno lo vuole fare. Nessuno lo vuole fare. Tutti quanti si tirano indietro. I sondaggi non vanno bene per Sallusti, sembra. Dunque, la proposta di Sallusti. Turno. La Bernardini De Pace, che è un avvocato divorzista molto famoso, mi sa che a te non ti sta bene tanto la signora Bernardini De Pace. No, sarei curioso di conoscerlo. L'ho conosciuta professionalmente, ma scusa, mi ha fatto una buona impressione. Per cui non è un no. Cioè, se... No, è perché io se non conosco una persona, prima di dire però se no, si arrivasse a uno stallo, Matteo, se si arrivasse a uno stallo, tu devi farai il capolista. Avanti, su, dai, diciamo, se si arrivasse a uno stallo, oppure veramente mai, oppure mai. Dimmi la verità. Guarda, io ho espresso il mio desiderio. D'accordo, però. È di farlo prima o poi. Adesso non riuscirei a farlo come segretario della Lega. Sì, ma se si arriva a uno stallo, mettiamo che si arriva a uno stallo, non trovate un candidato. Ragazzi, giovedì mi aspettano a Bolzano e andrò a Bolzano. Poi andrò mai. In Sardegna. Adesso mai. Puglia, adesso mai. Adesso a giugno no, non riesco a fare due cose contemporaneamente. Vabbè. Quindi fatemene fare una, fatemela fare Vabbè. Bene. Ciao, presto, ciao. Ciao. Intanto fai il presto. Remago, ciao. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. A Zanzara fa venire pensieri sporchi. Cruciani, Parenzo, facciamo una cosa a tre, vi prego. A proposito di Gesù, Parenzo, c'è la signora Taverna, quella dei 5 Stelle, sai, no? L'esperto 5 Stelle al Senato, che dice che l'azione di Gesù è vicina a quella del Movimento 5 Stelle. L'azione? Questo che di Gesù. Altro sequestro, altro uso politico di Dio, dai, ma non si può, su. Io trovo una vicinanza incredibile all'azione rivoluzionaria che fece Gesù Cristo, all'azione rivoluzionaria alla quale noi oggi stiamo chiamando i cittadini. Allora, c'è un tizio che si chiama, ma non lo dico nemmeno perché non gli voglio fare troppa pubblicità, un tizio di un'associazione animalista che ha scritto una lettera alla dirigenza del Sole 24 Ore, al direttore Roberto Napoletano, al vice direttore esecutivo Sebastiano Barisoni, alla capo redattrice centrale Alessandra Scaglioni. Vorrei sapere se questa è parte della linea editoriale del vostro giornale o se questa è un'iniziativa incontrollata e non gestita del signor Cruciani. C'è questa roba qui della... Non ha ben idea di che cosa significa la libertà questo signore che ha scritto, che si chiama, sì lo dico, tanto chi se ne frega, un tale Alessandro Peretti, una lettera aperta sulle scorribande del sottoscritto, capito? Nel primo caso qualche milione tra vegetariani e vegani avrà modo di trarre le proprie considerazioni su di voi, ma non solo, anche chi non appartiene a questo gruppo di persone potrà costruirsi un'idea su chi siete. Auspico proprio questo, delle pubbliche scuse e la rimozione di questo e altri contenuti simili a un intervento sanzionatorio nei confronti del Cruciani, che non dovrebbe essere libero di provocare e fomentare l'odio. Scusa, non ho capito, gentile dottor Peretti, quale sarebbe l'odio? Non ho capito bene. Cioè, sono a favore del coniglio cucinato. Cioè, sono a favore del fatto che il coniglio possa essere ancora cucinato e portato sulle tavole di tanti italiani. Tra l'altro ho scoperto che la Campania è una delle regioni, anzi la regione dove si consuma più coniglio, 10 kg all'anno a persona. Perché ti appassiona così, non so, tanto? Ma sì, perché sono cose, la roba del coniglio. Perché sono cose di cui si occupano tutti. Io non capisco. Perché sono cose di cui si occupano tutti. Fatto. Perché io capisco che tu ti occupi solamente di cose alte, importanti, no, eccetera. No, ma eccetera. Per carità. Ma il coniglio, il cibo, coniglio, la tavola. Io vado a rompere le balle, però questo. Ma no, dico, se me lo vogliono togliere, faccio una campagna. Faccio una campagna contro. No. Sì, no, ma lo trovo giusto, figuriamoci. E allora, la battaglia del coniglio, mi pare una cosa fondamentale, la battaglia del coniglio. Per te che cos'è fondamentale? Non ho capito. Che cos'è fondamentale? No, benissimo, certo, il coniglio. Ma non lo so, mi pare che nel mondo stiano accadendo delle cose, no? Di una certa rilevanza. Mi pare fondamentale evitare il sequestro di Gesù da parte della Lega. Mi paiono fondamentali tante altre cose, però per carità, anche la vicenda del coniglio sicuramente ha una sua centralità, per carità. Luca da Perugia, vai Luca. Sì, ma secondo me, mi senti, pronto? Sì, dimmi caro, dimmi. Il coniglio ha una rilevanza altissima all'interno del paese in cui viviamo. Certo. E ti spiego perché. Io ho una ricetta che mi tramanda la mia cara mamma dalla Calabria, io vivo a Perugia, ed è la ricetta del coniglio scappiato. Allora tu mi chiederai che cos'è. Assolutamente, ce la devi descrivere adesso in tutti i suoi particolari, in tutte le sue, assolutamente, io in tutti i suoi dettagli. È da venerdì che volevo darti questa ricetta. Allora, tu prendi il coniglio, te lo fai ovviamente sezionare in tanti pezzi, sì, e metti in un tegame con aglio e olio ben caldo e lo fai rosolare. Sì. Dopodiché, nel momento in cui è ben rosolato e si è un po' intenerito... Oh, spieghiamo a qualcuno che non capisce bene. Il coniglio morto, il coniglio morto, allevato, ovvio, eccetera, morto, non morto. Vivo, non è vivo, non cioè, messo dentro cosa... vivo, chiaro? Chiaro, no, perché qualcuno non capisce, cioè non l'ha scuoiato lui, lo hanno scuoiato altri, il coniglio chiaro. Morto, per chi non capisse, morto, vai. Chiarissimo, dopodiché lo fai rosolare e quando è ben rosolato ci butti un po' d'acqua calda, un goccettino di vino rosso, anche un po' di marsala e copri, fai cuocere, quando si è cotta la carne ben bene... Togli il coperchio, si è asciugata l'acqua, e ci butti sopra aceto bianco e pepe rosso a mai finire. Cioè il pepe rosso deve essere quasi ottimo, l'ingrediente ottimo. Principale. Questo qua è alla calabrese? Ah, e questo si chiama scattiato, perché deve scattiare nella padella, nel tegame. Ma è fondamentale, Parenzo, come fai a non capire che queste sono cose fondamentali? Bellissime. Ma dobbiamo parlare di geopolitica, di Putin, di cose del genere. Si parla del coniglio alla calabrese. Tanto, questo signore, Luca da Perugia, vuole dire semplicemente una cosa. Ci sono tradizioni, che per carità, poi anche le tradizioni si possono cambiare. Uno dice, era una tradizione anche quella di picchiare la moglie, per carità, è cambiato senza tutto. Senza cucinarla, bravo, senza cucinare. Lui invece vuole dire che questa roba qui non fa male a nessuno, a meno che uno non pensi che il coniglio sia uguale a un essere umano. Allora lì si cambia, si entra in un altro ambito. Invece pensiamo, tutti noi, persone ragionevoli, pensano che il coniglio, sì, per carità, non bisogna torturarlo, non bisogna fare delle angherie, bisogna coltivarlo bene, però bisogna mangiarselo. Cioè si può anche regalare a un bambino, in quel caso uno non se lo mangia. Però, la testa? Vogliamo parlare della testa? Dicono che sia ottima, tu che dici? Buonissima, però quella non la puoi mettere in padella, la devi mettere al forno con una panure di pane, aglio e prezzemolo. Siamo e la cosa importante, caro Giuseppe, è suggere l'occhio dalla testa. Cioè che vuol dire suggere l'occhio? Succhiare. Perché tu quando... bravo David, quando tu hai finito di mangiare tutta la parte del corpo del coniglio, rimane la capuzza, cioè la testa. Quello che diceva la capoccia, come diceva Razzi l'altra settimana, la capoccia. Sei indignato. Sono indignato perché non posso dare le notizie dell'ultimo minuto, quindi me l'ho comunicato. Sono indignato. Sei indignato? No, chi te l'ha detto che non si può? Scusa, notizie importantissime. Chi te l'ha detto che non si può? Non si può più. Ma chi te l'ha detto che non si può più? No, bisogna fare una sigletta nuova, che c'è qualcuno che si irrita, capito? C'è qualcuno in questo ambito che si irrita. Avevo qua tutto una cosa. No, bisogna fare un'altra sigletta, ma c'è gente che non c'è un cazzo da fare la mattina alla sera e pensa alle nostre siglette, dai. Luca, dimmi, allora che volevi dire? La capoccia? Questa capuzza la devi mettere in forno con questa panure di pane, aglio e prezzemolo, dopodiché la mangi e succhi l'occhio. L'occhio va succhiato. L'occhio va succhiato. Ma adesso ti pare una cosa, voglio dire, c'è Medio Oriente in fiamme. E noi invece parliamo dell'occhio del coniglio. Dell'occhio da succhiare. Stessa cosa fatta con la testa del capretto. Stessa cosa fatta con la testa del capretto. Mi raccomando. Fai accomodare il super ospite. Bene, andiamo. Però calma, andiamo. Fallo intanto entrare a Catania, Angelo. Questo super ospite che ti ho portato in studio. Qui a Roma. Stai calmo, stai tranquillo. No, per me è un super ospite anche Angelo da Catania, per esempio. Angelo da Catania. Intanto volevo dirvi almeno questo. Sì, sì. Che il Sassuolo Calcio comunica che in occasione della partita di questa sera contro la Fiorentina, che è in corso peraltro, che è in corso. Sassuolo, è in corso però, attenzione, pare che non lo sai, ma è in corso. No, non lo sapevo. Lo stadio si chiama Mapei. Vabbè, lo sappiamo. Io intanto lo ricordo. Ma lo sappiamo. Ma guarda che Squinzi. Però il Sassuolo Calcio comunica che in occasione di questa sera la questura di Reggio Emilia, di concerto con l'Osservatorio Nazionale sulle azioni sportive, ha autorizzato in via eccezionale la vendita nel giorno della gara del settore di curva. Ma è già andato, è già finito, è in corso la partita. È in corso la partita. Vabbè, saranno acquistati. Fondamentale. Angelo da Catania. Mapei Stadium. Angelo da Catania. Mapei Stadium. Angelo. Dimmi. Niente, beh, era tanto che volevo ascoltare. Intanto ti vorrei dire che sono uno dei giovani ascoltatori della Zanzara, che ho 27 anni, e sono tanti. Voi siete l'unico spazio di informazione veramente sopportabile. Vabbè, dai, Angelo, però degli, dei bene, complimenti bene, non ce ne frega niente. Va bene, vabbè, l'ho sempre saputa questa cosa. Niente, da quando si parla del coniglio, che non si può mangiare più, secondo me invece il tema che bisognerebbe affrontare è perché io in Italia non posso mangiare il cane. In che senso, scusa? Nel senso che perché non vorresti mangiare, mangiare tu il cane? Vuoi, ma vorresti mangiare il cane? Vabbè, Angelo, però adesso, perché non si può mangiare in Italia? Sì, effettivamente, se uno, se uno va fino in fondo a questa storia, uno dovrebbe dire, no, uno, se uno va fino in fondo dovrebbe dire perché è proibito, come dire, il gatto, è proibito mangiare cane o gatto. Anche perché il gatto in molte zone d'Italia si mangia e dicono, dicono eccetera. E in fin dei conti poi sarebbero gatti o cani di allevamento. Io sono contrario, non sono, sennò qui si scatena un casino. Io non sono però se uno, schifo, se uno è coerente fino in fondo dovrebbe dire, siccome sono cani e gatti, sarebbero cani e gatti di allevamento, come sapete, io non è inutile che vi ripeto la storia della Corea, che ho mangiato, ho provato a mangiare il cane, ma per un reportage te, quando ero una ma persona, che schifo, però dai, ma, sì, ma scusatemi, scusa Parenzo, scusa, ma fammi capire una cosa, il cavallo che qua si mangia a Catania, anche il cavallo, no, ma io lo mangio, il cavallo lo vedi un animale poco nobile? Beh, io non mangio il cavallo, che non sogna, che non ha emozioni. Ma io non mangio il cavallo, lo per so, religione, non per... mangi neanche il maiale per fatti per tuoi, questioni religiose. Capito, e dopodiché dicendo... avendo una figlia peraltro senese che quindi adora i cavalli, sai, lo vabbè, ma tu non lo mangi, ho capito, per però lei, vogliamo proibire, vogliamo proibire la bistecca di cavallo, anche quella la vogliamo non proibire? Non proibisco niente a nessuno. I filetti di cavallo, per esempio, i filetti di cavallo che sono eccezionali, li vogliamo proibire? Dai, su, ragazzi, dai, spettacolare. Adesso, sì, però Angelo, mangiare anche il cane no, fate entrare. No, intanto, io non sto dicendo qui che tranquillamente voglio mangiare realmente il cane. Va bene, Claudio dalla provincia di Roma. Angelo, ciao, ciao. Claudio, provincia di Roma. Vado a prendere un attimo l'ospite. Vai, vai, esci. Ma che a... ma c'è, c'è l'intervallo? Aspetta un secondo. Claudio, provincia di Roma, dai. Anticipa tutto, dai. Dai, Claudio, dimmi. Ecco, mi senti, Cruciani? Sì, dimmi, caro, dimmi. Mannaggia la Fiorentina. E finalmente ho capito perché. Perché sei razziale. Vabbè, ma che c'entra questo adesso? Dai, no, su. Ma attenzione, Sassuolo verità... Fiorentina 0-1, eh. Dai, stiamo perdendo. Dimmi. Cioè, non ho stiamo perdendo. Sì, vabbè, d'accordo, Claudio, dimmi, dai. D'accordo. Stiamo perdendo. Claudio, che cosa mi stai dicendo? Non ho capito. Dico, come fai? Io non capisco una cosa. Come fai a dire simboli religiosi non nelle aule, non nelle scuole? No, perché secondo me, assurdo. Secondo me, uno stato laico, veramente laico, proibisce ogni manifestazione religiosa. La religione non entra dentro una scuola pubblica. Ma perché? Ma non allora, io penso allora, che sia così. Che qua che ti dico? Risorgimento, tutto. Ma io non lo so. Io ho capito finalmente. Ma veramente il risorgimento non c'entra niente. Scusami. Un sacco di cazzate. Perché sei razziale. Deserto dell'anima proprio. Deserto dell'anima. Accoppi due cose: il tifo calcistico e alcune convinzioni che non c'entrano nulla. Fermo lì. Pubblicità. Cruciani, ma non puoi fare la zanzara pure il sabato, che a furia di sentirmi Radio Tube sto diventando impotente? Grazie. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La zanzara. Introdotto da una musica rock come al solito, chi c'è accanto a te, Parenzo, in studio? Torniamo per un attimo seri, dobbiamo parlare di una cosa allora, molto, molto importante. Prima di questo, una notizia dell'ultimo minuto: Squinzi, crescita dell'Italia stenta, l'ottimismo non basta, serve lo scatto, dice il presidente di Confindustria. Ma questa sembra una presa per il culo, però, scusami. No, cioè, ma no, ma tu ogni volta dai queste notizie, sembra io una presa in giro. Da oggi do notizie riguardanti l'editore, non lo fai tu, lo faccio io, mi incarico io di farlo. Va bene, va bene. Ci ho detto, è sì. Con noi negli studi di Roma Francesca Immacolata Ciaucchi, altrimenti detta, ma non so perché, il corvo, ma non mi pare un corvo, è una signora. Buonasera Ciaucchi. Buonasera, buonasera. Aspetta che non si sente. Non si sente, che non si sente. Come mai? Io ho chiesto prima l'amico mio, mi accendi quel microfono, venga qui accanto a me, va signora Ciaucchi, perché... Adesso qua chissà cosa diranno, poi però. Eccola qua, facciamo sentire la sua voce. No, perché sei. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, eccomi. Come sta? Come la sta? Senti bene? Bene, bene, sto un po'. Scombussolata, diciamo, no? Ma diciamo, il problema di queste ore da un punto di vista della salute sono le nausee. Le nausee? È incinta, lei? È incinta? Ah, l'aveva sì, già detto, sì. Quanti mesi, si può dire quanti mesi? Sì, tre mesi. Questo è il terzo mese. È il terzo mese, diciamo, mese di nausea. Maschio o sì. Femmina non si sa ancora? Non si sa ancora. Non si sa. Lei che cosa vorrebbe, un maschio o una femmina? No, quello che Dio vuole, va bene. Ma è un momento però difficile. Io per esempio volevo una femmina, Parenzo, quando, ti giuro. Volevi una femmina? Volevo una femmina. Sì, hanno sì, pure speculato no. sulla tra l'altro, sulla tra tante altre cose, sulla gravidanza. Sulla sua gravidanza, sì, qualcuno sì. Ha detto lei è rimasta incinta proprio quando è scoppiato il casino. Vabbè, non si decidono queste cose prima. No, beh, non sì, si appunto, è difficile. No, qualcuno ha detto l'hanno scarcerata anche per questo. È vero questa cosa qua, signora Ciaucchi? Ma non credo proprio. C'è una dichiarazione della... Scarcerata, ma no, io non sono agli arresti domiciliari. No, all'inizio ma neanche, non ho mai fatto neanche un'ora di arresti domiciliari, ho fatto forse 11 ore di arresti in Vaticano, quindi 11 ore, come sono state? Come sono le celle vaticane? Non le ho viste perché non sono stata ospitata in una cella, ma bensì sono rimasta a dormire una notte in una comunità di religiosi in Vaticano, quindi. Senta, ma lei ha paura, adesso io non so come finirà questa vicenda qua, no? E quando finirà, ma ha paura del carcere? No, io non ho paura. È un sentimento che non conosco. Quindi non conosce la si paura. Fida della giustizia vaticana, però. Ma allora devo dire che se non tanto, secondo me, perché viste come vanno le cose. Allora, devo dire una cosa. Allora, sicuramente c'è stato, diciamo, in una prima fase qualcosa che comunque non ha diciamo così funzionato. Intanto perché comunque la prima cosa che ho rilevato è il fatto che per reati così gravi che mi vengono contestati non è stata ammessa la mia difesa, il mio avvocato di fiducia, sì, cioè la buongiorno, che è l'avvocato giudice, che rimane buongiorno. Sempre lei l'avvocato, assolutamente buongiorno. Sì, da questo punto di vista si può dire, signora Ciaucchi, che la giustizia vaticana è una roba un po' medievale, insomma, un po' antiquata, si può dire? No, tranquillamente, io lo dico ogni giorno, figuriamoci. Beh, insomma, forse diciamo che fra le varie riforme all'interno della commissione avremmo dovuto riflettere anche su qualcosa di questo genere. Ecco, invece... ma non è un processo un po' farsa, allora? Se uno non si può difendere come si dovrebbe difendere in qualsiasi ordinamento moderno, democratico, eccetera, eccetera, non rischia di essere un processo farsa? O spettacolo, non so come dire. No, allora, sicuramente, forse... sicuramente l'intento non era quello, né della farsa né del processo spettacolo. Purtroppo gli eventi, a causa di quello che sta accadendo, lo stanno rendendo un po' così, insomma, soprattutto perché siamo in un processo per fughe di notizie, ci troviamo davanti al fatto che gli atti processuali escano indisturbati e viaggino sì. e viaggiano per... No, e di questo parliamo, e di questo parliamo adesso, però... No, però Balda, ne parleremo tra poco. Adesso ne parliamo tra poco, però io volevo proprio un giudizio sul fatto che uno non si può scegliere l'avvocato, ci sono tempi molto ristretti, che giustizia è una roba... Allora, su questo devo fare una precisazione, nel senso che sicuramente io ho ritenuto, diciamo, una lesione importante del mio diritto di difesa quando l'avvocato Buongiorno non è stata ammessa sì. al mio patrocinio, ma questo perché un mese prima l'avvocato Buongiorno, che non è un avvocato totale, è stata comunque ammessa dallo stesso tribunale per difendere una posizione delicatissima di un altro imputato. Dunque una cosa ad personam, una cosa quindi, ecco, quello che diciamo mi ha un po' fatto rimanere un po' male è stato questo. Oggi però è successa una cosa molto importante nel processo. Eh sì, cioè il signor Balda ha presentato questo memoriale. No, un'altra cosa. Memoriale hot, peraltro. Si può definire memoriale hot quello. Secondo me si può muovere un memoriale da pazzi, ma comunque, insomma, su questo da magari pazzi. Torniamo dopo. Porno memoriale, almeno porno memoriale me lo concederà. Assolutamente. Porno memoriale, signor Balda. Allora. Piace molto a Cruciani, signor Balda, sai, no? Perché Cruciani è... Cruciani ho visto che comunque... Cosa? No, vabbè, poi dopo ne parleremo. Dai. Vabbè, allora, Balda. No, dicevo, oggi è successa una cosa importante al processo. Che il mio avvocato, che è l'avvocato Sgro, che è un avvocato rotale, quindi insomma ha dovuto scegliere... Che ha fatto il signor Sgro? Che cosa ha fatto? Ha chiesto in mio favore dei termini a difesa, essendo comunque intervenuta nel processo soltanto venerdì e avendo avuto contezza degli altri... Hanno rimandato al 7, hanno rimandato al 7. andata a 7. Vabbè, quindi questo... diciamo che comunque questi tempi brevi che avevano spaventato, beh, insomma, tutti, certo, in realtà sono cretinati. Ma non sono nemmeno quelli italiani, però, dove si va per le lunghe. Sono... Vabbè, certo, ma stiamo parlando di uno stato che equivale a un quartiere di Roma, quindi è però, anche... Però, scusa, lei non vuole, anche... dire, non vuole dire che si tratta di una giustizia ridicola, quella vaticana. Diciamo, lei non lo può dire nella sua condizione. Io lo dico io. Da riformare, però, allora, da cambiare, sì. Cioè, perché non ci sono... I diritti di difesa non sono assicurati, diciamola tutta. No, io non credo. Guardi, allora, ci sono state delle lesioni importanti, ci sono state delle situazioni poco chiare, eccetera. Ad oggi, però, devo dire che comunque nella mia richiesta di termine di difesa, quantomeno questi mi sono stati concessi. Comunque, lei ha detto prima una cosa importante. Lei ha detto prima una cosa importante. Lei non ha paura del carcere, cioè non ha paura, insomma, se dovesse finire male, e noi non glielo auguriamo. Allora, guardi, se dovesse finire male, cioè nel senso. Cioè, con una condanna a 7 anni. Lei che fa? Rinuncia all'estradizione? Lo Stato Vaticano chiede l'estradizione, che fa? Sì. Io vengo condannata in una condizione di questo genere dove non c'è una singola sola prova a mio carico e c'è tanto di ambizione, questo dico io, questo lo dicono gli altri, sì, no, vabbè, quella è la sua difesa, se non c'è come dire, se non si riesce a se nonostante questo io comunque vengo condannata, a quel punto non saprei per che cosa. A quel punto io dico, se questa è la giustizia vaticana, io mi ritengo una martire e quindi pretendo di scontare la pena. Bene, non per andare in carcere Vaticano. Non accetterò la grazia, se e né tanto meno non si ritiene chiederò. Prigioniero politico. Mi ritengo prigioniero politico dello Stato Vaticano. No, attenzione, io mi ritengo rifugiato politico nello Stato italiano, cioè nel senso che ai sensi dell'articolo 22 dei patti lateranensi, poiché quello che mi veniva contestato è un reato politico, ovvero un reato in danno alla sicurezza dello Stato città del Vaticano, io mi sono rifugiata ai sensi dell'articolo 22, cioè sono in Italia chiedendo che io di essere processata in questo Stato. Ah, per cui non è che va in carcere in Vaticano, non è che si consegna alle carceri vaticane. Vi consegnerò alle carceri vaticane, perché questo concetto dell'articolo 22 si consegnerà alle carceri vaticane, questo concetto dell'articolo 22 viene sostanzialmente meno, perché io stamattina mi sono liberamente presentata in Vaticano. Il Papa non potrà ammettere che una donna con un bambino finisca nelle sue segrete. Il Papa dovrà per quanto mi riguarda, mi auguro che lo faccia, perché lei col suo bambino in carcere in Vaticano. Assolutamente sì, se io vengo condannata mi auguro che la Santa Sede mi farà scontare la pena col bambino in carcere. Devono assumersi, ma neanche in Italia succede, devono assumersi la responsabilità di aver condannato una persona innocente, quindi se mi condannano rimarrò in Vaticano. Bene, allora io però dovranno portarmi via in catene praticamente, se vorrà============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�└================================================================�================================================�================================================================================================================================================�└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ vado. Devi sapere, Parenzo, che io ho una lunga tradizione, pur essendo ormai una persona totalmente atea, eccetera, ho una lunga tradizione vaticana di conoscenze in Vaticano che ho perso ormai. Sì, ma come no? I cavalieri di Cappa e Spada. Lì già sta succedendo il disastro. Sì. Questo aggrava ancora di più la situazione. No, però, la mia famiglia erano del Circolo San Pietro, persone. Ma persone non fare altri danni molto, al Vaticano. Molto vicino oltre al Papa. Quelli che già in questo momento mi pare purtroppo. Senta, però parliamo di cose serie. È uscito questo memoriale pubblicato oggi da Repubblica, se non sbaglio, di Monsignor Baldà, che dice sostanzialmente che siete stati anche solo per una notte, dice amanti. E lui poi ha dovuto consegnare sotto ricatto questi documenti ai giornalisti. Lei ha già detto delle cose su questa cosa qui. Cosa si può aggiungere? Cioè, che personaggio è? Cioè, perché dice queste cose? La domanda principale è questa: avete mai passato quella notte insieme? Siete mai stati amanti, sì o no? Ma allora, guardi, io trovo veramente offensivo. Intanto io trovo offensivo di dover rispondere a una roba di questo tipo. Lo so, ho detto io. Voi l'avete visto, Monsignor Baldà? Sì, c'ho qui la foto su Repubblica, su una macchina d'epoca, peraltro. Che c'è, è brutto? Ma allora, ripeto, non so più come dirlo, e come dirlo più specificamente. Non sono io e neanche quelli appartenenti alla mia categoria le persone che interessano Monsignor Baldà. Che è omosessuale? Omosessuale? Non lo so. E sicuramente so che non sono né io né le mie simili, quindi. Saranno gli uomini. Ma è un monsignore o no? Ma scusa, secondo lei? Ma guardi, io nell'ultimo tempo stentavo a riconoscerlo, però insomma. C'era uno dedito a che cosa? All'alcol, fumo? Cercando di comprendere un po'. Cioè, se uno lo vede in un contesto, diciamo, che non è quello del Vaticano, dice che è un monsignore o no, secondo lei, per quello che lei. Ma allora, quello che dicevano tutti, chi vedendolo nell'ultimo tempo, tutti quanti gli dicevano: questo qua è uno travestito da prete. Era la battuta che facevano più spesso. Cioè, che vizi aveva? Scusi, ma tanto per allora, andare. No, attenzione, cioè, nel senso, secondo me la cosa fondamentale adesso è chiarire perché nasce questo memoriale, cioè da che cosa Baldà si motiva a fare una cosa di questo genere. Allora, dice che lei era dei servizi segreti. Sì, certo. Cioè, che lei diceva di essere dei servizi segreti. Sì, pure cinesi. Perché Bisignani era il suo pupparo. Lei lo conosce, Bisignani, o no? Sì, lo conosco. Bene? Lo conosco. L'ha sentito in questi giorni? Sì. l'ho sentito. È una... Anche in questi giorni assolutamente l'ho sentito. Sì, ma perché certamente è una delle persone che, anzi, è un amico. Spesso mi chiama per chiedermi, e anzi, forse è uno dei pochi che, anziché chiedermi del processo, mi chiede come sta mio figlio. E come sto, se ho le nausee, se ho queste cose qua. Quindi devo dire che comunque è una persona. Cioè, lei non l'ha mai nascosto l'amicizia con Bisignani? Ma perché dovrei nasconderla? Perché dovrei nasconderla? Tanta gente conosce Bisignani e dice di non conoscerlo, questo è vero. Ma io non sono un ipocrita, quindi. Però mi scusi, vedo adesso la foto di suo marito. Effettivamente è meglio del signor Baldà, del signor Baldà. Il marito della signora Cionchini. Sì, insomma, c'ha anche 20 anni di meno, come posso dire? Soprattutto non è prete. Non è prete. Dunque, tutto falso. Lei non mi ha ancora risposto su questa cosa qua. È tutto falso. È assolutamente tutto falso. Come si fa a dimostrare? Questo è un problema. È falso. È tutto insomma, io non so come posso dimostrare. No, questo è indimostrabile. È indimostrabile. Oggettivamente è indimostrabile. E tutti questi messaggini che lui dice vi siete mandati. No, attenzione, quelli che hanno trovato non l'hanno trovati, perché quella roba lì ufficialmente agli atti processuali non esiste. Cioè lei pensa che sia inventata? No, io non penso, io ho visto con i miei occhi. Allora è accaduto questo. Che è accaduto? Quando Monsignor Balde si è visto messo alle strette, stiamo parlando di 6 giorni dopo l'arresto, cioè quindi 6 giorni sono 6 giorni in cui sei in carcere da solo, lì fermo, cioè non sei nella comunità religiosa, sei in una cella in Vaticano. Viene consentito, dopo questi 6 giorni, a tale avvocato Antonio Zaccaria di presentarsi in Vaticano per colloquiare col Balde. Sì. In questa occasione l'avvocato Zaccaria consiglia al Monsignor Balde di redigere un memoriale. Addirittura oggi su Fanpage questo avvocato sostiene di averlo redatto lei, quindi in pratica sostiene di aver commesso un falso ideologico, comunque sostiene di aver redatto questo memoriale. Perché? Perché l'avvocato le dice, guarda, tu ti trovi in una condizione in cui la tua responsabilità sulla consegna dei documenti esiste per tabulas. Sì, certo. Lo dice anche lui, questo perché i documenti li ha consegnati lui. Assolutamente sì, io non ho mai consegnato un documento a nessuno che non fosse qualcuno all'interno della Santa Sede. Precisiamo questa cosa qua per gli ascoltatori, perché sennò sembra che parliamo di pazzi. Tutto nasce dalla pubblicazione di questi due libri, e dopodiché la signora Ciaucchi insieme a Baldà vengono incriminati per una serie di reati. Lei sta dicendo una cosa molto semplice, molto chiara: io non ho mai dato un documento né a Nuzzi né a Fittipaldi, è così? Assolutamente sì, ma tanto lo dico che è lo stesso Balde ad ammettere di averli dati lui. Sì, no, lui lo ammette, certamente. In questo memoriale lo ammette, però, dicendo però era sotto ricatto. Era sotto ricatto suo, perché era quasi concupito da lei, innamorato, ricattato. Ricattato, dice, ricattato. E questo dice lui. E dovrà dimostrarlo quello che dice, insomma, il ricatto dovrà sostenerlo, immagino, in qualche modo. Dovranno anche i giornalisti sostenere di aver soggiaciuto a un mio ricatto. Quindi se Gianluigi ed Emiliano ammetteranno che comunque Monsignor Balde si recava da loro sotto costrizione e consegnava questi documenti sotto costrizione, secondo me sarà una cosa un po' grave, ma non credo che allora da dove nasce la cosa? Questo avvocato va là, è un memoriale sotto dettatura di qualcuno. Siamo in un problema, gli dice, guarda, qua abbiamo un problema, adesso noi dobbiamo comprendere come possiamo uscire da questa storia, forse la cosa migliore che noi possiamo fare è sostenere che tu nel momento in cui hai compiuto questa azione non eri lucido perché c'era una persona accanto a te che aveva posto in essere una serie di comportamenti strani, particolari, ho capito. Che ti aveva indotto in questa cosa, e questa cosa, diciamo, ti aveva, cioè, lo vogliono fare passare come quello che non è lucido e che sotto è diretto da qualcun altro, no, da lei, sotto pressione della signora Ciaucchi ha dato questa cosa ai giornalisti. Infatti lui dice in questo memoriale che praticamente è quasi costretto a dare questi documenti ai giornalisti. Però io le chiedo una cosa, lei prima ha fatto un'accusa che è accusa, poi non è un'accusa per me, perché essere omosessuale non è un'accusa, e dice al signor Baldà, mi scusi se insisto su questa cosa ma solo un secondo, il signor Baldà non piacciono quelle del mio non genere, non ero io l'interesse del signor Baldà, ho capito, ma che significa, che è omosessuale? Io non ho idea di che cosa sia, ma sicuramente io le posso assicurare che le donne non gli piacciono a Monsignor Baldà. Ma ha avuto rapporti, che lei sappia aveva rapporti sessuale con qualcuno? Ma io non so con chi vanno a letto le persone, cioè non stavo con lui a casa ma la però sera, se lei dice so sicuramente so che non gli piacciono le donne, ma io non voglio scadere a suo livello, quindi fondamentalmente già quello che ho detto è sufficiente sul punto. Senta, lei che c'è, Parenzo, dimmi No, perché voglio sapere, siccome ormai in questo ventilatore di schizzi di fango viene fuori di tutto, un suo sms in cui lei avrebbe detto, o chat in cui lei avrebbe detto a Balda, no, padre, se sei depresso fate una scopata. Esatto. Tutto falso, sono veri quei messaggi? No, quelle, allora, questo specifico messaggio è vero, ma sui messaggi stavo dicendo una cosa. Questo ci spieghi questa roba dei messaggi perché è importante. Allora, perché su questa cosa dei messaggi vi stavo raccontando come nasce. Allora, quindi quello della scopata è vero, per usare un tutto il resto no. Allora, che cosa accade? Accade che agli avvocati rotali è proibito estrarre copia degli atti processuali. Dei propri impugnati. Quindi è un reato estrarre copie. Allora, che cosa succede invece? Dagli avvocati di Balda vengono fotocopiati gli atti processuali, che sono questi che comunque stanno confluendo. Cioè, sono loro che hanno messo in giro questa roba dei messaggi? No, non sono loro. Loro commettono forse evidentemente solo la leggerezza di farle prendere visione agli avvocati civili del Balda. Vabbè, allora? E in questo caso praticamente che cosa accade? Che sono circolate, io l'ho visto nei miei occhi, delle veline con una serie di stampate con queste chat. Alcune delle quali coperte con un pennarello nero. Cioè, io voglio dire, ma quei messaggi lasciamo perdere il modo in cui sono arrivati fuori. No, questa dinamica è interessante perché... Sì, d'accordo, però è complessa. La cosa è, quei messaggi lì in cui c'è la sua cugina, in cui lei le offre, sua cugina, sono veri o sono falsi? Questo è il totalmente punto. Falsi. Ma falsi che cosa? Che non esiste sua cugina, non è vero il fatto? Mia cugina non esiste, io non ho nessuna cugina con quel nome. Cioè, sono messaggi strumentalizzati, cioè ci sono pezzi di messaggi... Io ora sta conversazione a memoria non me la ricordo, ma sono pezzi cancellati con il pennarello nero, quindi magari stavamo parlando... Basta, chiaro. Il messaggio vero è quello della scopata. L'unico messaggio vero è quando lei gli dice che è un modo di dire, che non è un modo di dire, insomma. Parenzo, ma tu non l'hai detto mai. Beh, però allora non un monsignore, però non un monsignore, sì, però non un monsignore, non so, però vabbè, insomma, è il monsignore. Però si vede che quel monsignore era particolare, questo quel monsignore dice. Diciamo così, sicuramente, cioè questo è interessante, però attenzione, si era particolare, cioè se lei usava questo linguaggio è un punto, come dire, curioso per sistemare anche le cose, che per raccontare quello che hanno scritto i giornali in questi giorni, no? Cioè, se lei ha comunque questo tipo di eloquio con questo monsignore, vuol dire che c'era un rapporto comunque di grande confidenza. C'era con un rapporto d'amicizia, fondamentalmente. C'era un rapporto che poi si è rotto durante l'estate, durante la primavera. No, non si è rotto durante l'estate, si è rotto a maggio, perché monsignor Balde, sono le ragioni per le quali io comunque gli do del verme. Che cosa fa? Ad un certo punto, anziché comportarsi da persona concreta, da persona seria, da onorare il ruolo che aveva, che cosa fa? Perché un conto è cazzeggiare con i messaggini, poi diverso è prendere e partecipare tutte le sere a un concerto diverso, partire, andare in vari alberghi, una volta a Torino, una volta a Verona, una volta a Bologna. Cioè, faceva la bella vita. Macchine d'epoca, aperitivi, concerti, frequentare una cricca assurda di questi personaggi pazzeschi legati al mondo dello spettacolo. Come lo definirebbe lei, signor Balda, come lo definirebbe come personaggio? Allora, la persona che ho conosciuto io era un genio delle finanze, quello che ha nominato Papa Francesco. Quella che, in cui si è trasformata? Quella in cui si è trasformata è una persona che io non riconosco, ma tanto non la riconoscevo che io a febbraio, vedendo questa follia, già disse al Balda di sottoporsi a una perizia psichiatrica, e lui andò a farsi visitare all'ospedale di Tor Vergata. Cioè, da perizia psichiatrica addirittura? Assolutamente sì. Ma che gli è successo, sì, secondo lei? Naturalmente, no, era quello che mi chiedevo. Cioè, io ho conosciuto un sacerdote e dal sacerdote siamo arrivati a quello che voi vedete oggi pubblicato su Repubblica. E lo descrive come al capone, praticamente. Era una roba sconvolgente, cioè era una roba... Io non saprei neanche come definirla. Era da che era uno che comunque usciva dal Vaticano, andava a casa, prendeva mammina e andava a fare la passeggiata e si è ritrovata a Verona. Sì, però a Verona dove? Una persona così, come è possibile che, adesso per carità, lei pure ha avuto rapporti, perché parlava al telefono con i giornalisti, per esempio? Questo mi chiedeva, un incarico delicato da parte del Papa, glielo dico con molta franchezza. Ma io faccio questo di mestiere, abbia pazienza, io comunque ho capito, ma lei sta in una commissione importante per il Papa, deve parlare con Dio o col Papa al massimo, non con i giornalisti. Io devo parlare con chi mi paga, cioè nel senso che io ho una mia vita da seguire fuori, perché il lavoro per la commissione era gratis, quindi se io volevo pagare il mutuo dovevo fare il mio lavoro di comunicatrice, quindi io non parlavo del Vaticano, io parlavo con i giornalisti del mio lavoro, visto che io campo di quello. D'accordo, capisce? Ma lei però parlava con i giornalisti anche della situazione all'interno del Vaticano, su questo mai, non c'è dubbio. Mai parlato del Vaticano con i giornalisti? No, assolutamente no. Io ho fatto delle... Parenzo mi conosce, tu mi hai parlato del Vaticano? No, per carità. No. Io mi ricordo che lei è anche venuta, tra l'altro, a una cena a casa mia tanto tempo fa e non parla... No. Cioè, una tua fonte, parlavo... stai dicendo, signora Ciaucci? Chi è la fonte? Tu, è la tua fonte, no, sto scherzando. Ma la fonte di che? Io mica ragazzi, c'è la pubblicità, poi altri... Colombo. Allora, c'è la pubblicità, poi altri due minuti con la signora Ciaucci, che lasciamo libera naturalmente. A tra poco. Che cazzo stiamo a dire, in prete omosessuale, bisessuale, transessuale? Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Allora, in studio a Roma con Davide Parenzo c'è Maria Immacolata Ciauchi, considerata Francesca. Immacolata. Perché ho detto Maria? Perché Maria Immacolata mette insieme Maria Immacolata. Peraltro. Ciauchi. Allora, sì, Francesca Immacolata Ciauchi. Ma qualora fosse maschio, questo bimbo come potrebbe chiamare? Francesco? Ma no, mi chiamo io Francesca. No, come il Papa, dico. Ma forse Pietro. Pietro. Forse Pietro. E sei femmina? Boh, così tanto per fare. Non lo so. Come si chiama di nome Balda? Il nome di battesimo di Balda qual è? Lucio. Lucio. Quello lo escludiamo. Come Lucio era mio padre. Oh, ragazzi, non insultare la parola Lucio. Vabbè, ho capito, però stiamo parlando di Lucio di Angelo Balda. No. Comunque, guarda, ma lei vuole, lei vorrebbe, lei lo vorrebbe vedere in galera, signor Balda? Ma allora, lo è già, però, amico mio. È già in galera, no, lo so che è in galera, ma lo vorrebbe vedere in galera, cioè condannato in galera, scontare una pena lunga, eccetera, o no? No, io vorrei soltanto che lui ritrovasse un po' di luce nella sua vita. Io credo che Monsignor Balda comunque non sia una persona cattiva. La persona che io ho conosciuto però non ha bisogno, è di, un, ha bisogno di un medico. Ha bisogno di una persona che gli sia vicina in questa fase. Anche perché comunque io credo che forse a 54 anni, quando hai fatto delle scelte importanti come quella di farti prete, e poi non sai se queste scelte sono corrette. Beh, faceva tutto tranne che il prete, lei mi ha detto prima. Tutto tranne che il ma prete. Ma in questa fase, però, attenzione, cioè, saranno, vabbè, sì, in questa fase. Però lei faceva tutto tranne che il prete, mi sembra di capire. Andava ai concerti, alle feste, macchine d'epoca. Ma che vizi aveva? Un vizio grave che un prete non può avere. Qual è? Al di là, uno può andare ai concerti da prete. Qual è il vizio grave che non aveva? Cioè, faceva sesso, questo è il punto fondamentale, con persone. Allora, cioè, io non che ho idea aveva, se lo facesse che cosa facesse. In realtà forse il vizio vero di Monsignor Balda era la vanità. La vanità. La vanità. Che si comprava anche oggetti, spendeva soldi. Sì, sì, sì, questo assolutamente. Rolex. Uno spendaccione. So, quali soldi, quali soldi utilizzava? Scusi. Io non ho idea, perché così come non ho contezza con chi va a letto, non ho anche contezza di come guarda. Ma la portava in grandi ristoranti? No, io non ho il vizio dei ristoranti. Senta, se avesse di fronte il Papa adesso, cosa direbbe al Papa? Lei, se avesse di fronte il Papa, cosa gli direbbe? È arrabbiato. Arrabbiato sicuramente per tutta questa storia. Allora, no? Furibondo, come disse una volta Di Marino, su Marino, signor Paglia. Io non so che cosa non è furibondo? Allora, guardi, sicuramente, insomma, comunque il Santo Padre comprenderà che questa situazione nasce intanto da una situazione complessa, che è quella che abbiamo vissuto nella commissione. Cioè, lei, però, cosa direbbe di fronte al Papa, lei, in questo momento, a Papa Francesco, cosa direbbe? Mi perdoni? Senza mediatori, se avesse la possibilità di parlargli proprio vis-à-vis. Senza i mediatori, le cose intorno, le perpetue. Mi perdoni, forse non sono stato all'altezza, questo glielo direbbe? Vede, io non ho mai rivelato nessuno dei contenuti dei miei discorsi con il Santo Padre, non lo faccio neanche. No, ma non sto dicendo quello che lei quello, no, che, lei, quello che lei direbbe lo direi a lui, evidentemente. Non lo direi in radio. Senta, secondo lei c'è qualcuno che vuole il Papa, non dico morto, che vuole che il Papa se ne vada, cioè vuole cancellare il Papa, vuole distruggere la figura del Papa, cioè, no, glielo dico proprio esplicitamente, non c'è qualcuno come Papa che Luciani, vorrebbe che il Papa sparisse? Ma allora, diciamo che sicuramente il Santo Padre, Papa Francesco, ha creato una situazione che avvicinatevi. Una situazione che il Vaticano è assolutamente anomala. Quindi chiaramente diciamo che comunque determinati centri di potere sono stati completamente scardinati. E questi stanno reagendo? Hanno già reagito. Adesso siamo già alla fase 2. Hanno reagito, che hanno fatto? Lo scoprirete fra un po'. Beh, no, questo è mettere la musica in 007. Come, cioè, che stanno scatenando la controffensiva? Lo scoprirete fra un po'. Cioè, anche sputtanare lei, per esempio, fa parte di questa strategia? No, questa fu all'inizio. Questa fu all'inizio. Adesso, purtroppo, questa che stiamo vivendo è opera solo del Balda e dell'avvocato Zaccaria. Sì. Okay. Mentre ci sono altri poteri in Vaticano che stanno scatenando la controffensiva. Che fra un po' vedrete. Che fra un po' vediamo. Ma che è la controffensiva? Va bene, però? Va bene, no. Liberiamo la signora Ciauchi. Va bene. Grazie. Grazie, a presto. Grazie. Molto gentile. A presto, un abbraccio. Saluti. Mi raccomando, con la gravidanza, che è una cosa delicata. E quella è seria. Grazie. È una cosa serissima. Mille. Arrivederci. Saluti. Luigi 800 24 00 24. Abbiamo avuto un momento di hard news con la signora Ciauchi o Ciauchi. Perché hai detto all'inizio Ciauchi, Parenzo, quando era Ciauchi invece? Cioè, David, che ha accompagnato fuori la signora. Luigi da Bologna, vai Luigi, sto da solo. Luigi, pensionato semplice di Bologna. Dimmi. Dunque, riguardo i presepi delle togli il microfono, amico mio, togli via voce, mettiti con okay. Vai. Riguardo ai presepi, le cose, agli islamici i bambini stranieri non gliene può fregare di meno. Sono i presi dei maestri comunisti che vogliono abolire tutte queste cose. Come no, però Luigi, scusa, no, quello là non è comunista, è uno che vuole, è uno che il signore di Lozzano, stai dicendo tu, Luigi? Sì, quelli lì, quei presi di lì, quella gente lì, le maestre, loro sono vogliono abolire loro il crocifisso, il presepe, tanto perché siccome non ha mai battuto un chiodo in vita sua, allora per farsi notare dicono adesso togliamo qui, non facciamo fare il presepe, festeggiamo nonno Gino invece che Gesù bambino, eccetera. Quindi io, ma non c'entrano niente i comunisti in questo caso, non è che sono tutti comunisti, eccetera. Il problema fondamentale. No, dentro hanno cambiato nome, hanno cambiato, ma dentro sono comunisti. Sono comunisti, vabbè. Sono comunisti, vabbè. Luigi, ho capito. Roberto da Roma, vai Roberto, dimmi. Sì, pronto. Vai, dimmi. Buonasera, sì. Allora, premesso che comunque sia. Evviva l'amore, intanto. Sì, sì, sì. Sull'amore, perché tutta persa è illusione, si ha detto qualcuno. No, giusto? Però scusami Roberto, che cosa voleva, qual è con chi punto? Voleva parlare? Forse con una radio di un altro tipo? Con la Zanzara, sì. Così viva l'amore. Allora, se volete fare magari informazione, fate informazione. Pare che con la signorina Ciaucchi hai scoperto l'acqua calda. Ma. Cioè, vabbè, ma adesso lasciamo perdere, abbiamo scoperto l'acqua calda, no? Cosa ci vuoi dire? No, sono molto interessato a quello che ci vuoi dire. Per me tu sei sullo stesso piano nazionale Ciaucchi, non faccio nessuna differenza tra il corvo. Io tratto tutti allo stesso modo, però dimmi. Visto che state indagando di qua, di là. L'altra volta avete chiamato, no? Dimmi. Uno che è un giornalista. È sempre la radio questa qua, ci vuole una certa velocità, una certa rapidità, amico mio. Sì. Allora, l'altra volta chiamato. Vabbè, ciao Roberto, Andrea da Venezia, Andrea Venezia, dai. Come fai di cognome tu? Come fai? Cruciani, sì. Cruciani. Sì. Testa o? Testa? O croce. Testa o croce, sì, ma amico croce, mio, con me non croce. Attacca, questi giochetti no, non attaccano. Calma. Sì. L'inno nazionale come fa? Sì, amico mio, cambia registro, dai, forza. Il Dio la creò. Sì, vai. O togli il Natale dal calendario, sì. E allora effettivamente è uno stato laico, sì. Ok? Oppure dal momento in cui il Natale c'è nel calendario, sì. A scuola si fa la recita, altrimenti l'islamico, sì. Va in una scuola islamica e l'ateo va in una scuola atea. Non esiste perché, la scuola atea, amico mio. Cioè, esiste la scuola pubblica. La scuola pubblica. Perché adesso vengono fuori tutti questi casini? Semplice, perché ci sono quelli che non hanno una cultura italiana, sì. Dall'origine, sì. Che entrano e non vogliono vedere il crocifisso e non vogliono questo. Ma e non vogliono quello. Che stiano a casa sua. No, guarda, secondo me, tra l'altro, quelli che non vogliono il crocifisso di islamici, ve lo dico, sono molto pochi. Bravo. Questo lo riconosco. Tant'è che ci sono moltissimi islamici, della scuola di Rozzano, che non gliene frega nulla di questa roba qui. Quella è stata un'azione di un signore che non voleva che fossero cantate delle canzoni di Natale di ispirazione cristiana e cattolica durante l'orario della mensa a Rozzano, e ha sbagliato, secondo me, perché si è preoccupato della sensibilità degli altri, quando agli altri non fregava assolutamente nulla, niente. Poi io penso che il Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Pubblica Istruzione Italiana debba vietare tutte le manifestazioni a carattere religioso, tutti i simboli di carattere religioso all'interno della scuola pubblica italiana. Quella però è un'altra partita che non può fare il signore di Lozzano, anche perché il signore di Lozzano, il preside, ha fatto questa piccola battaglia finita male perché si è dimesso subito, invece se fosse stato coerente doveva rimanere lì, perché altrimenti non è padrone delle proprie idee e non è coerente fino in fondo con le proprie idee. Preside di Lozzano ha fatto un intervento così, come si direbbe in inglese, on the spot, casuale, preso dalla paura della questione di Parigi. Sbagliato, doppiamente sbagliato. Pubblicità. Guarda che c'è gente strana in giro. La Zanzara. Oh. Allora, caro David, popolo della radio, popolo della Zanzara 1-1, Fiorentina Sassuolo 1-1. Stai esultando per il pareggio uno. Del Sassuolo. Ti rendi conto come sei diventato lecchino? No, 1-1. Cioè, sei diventato uno schiavo di Squinzi, una roba ridicola. Cioè, schiavo. Una roba pazzesca. Pure il Sassuolo, tifi. Non ti sei mai interessato del calcio. Sassuolo Fiorentina 1-1. Vai, vai. Ma non mi meraviglio, ma dov'è Pardo? Dove sono Genta? Dov'è lo speciale di Genta? Come si chiama l'altro? Genta, Pardo, eh? Basta, l'altro. Ah, no, Capuano, sì, Capuano. Capuano, Genta e Pardo, dove siete? Dove siete? Allora, sono stato attaccato, siamo stati attaccati. No, no, sei, perché sono dagli amici. Io ti sostengo timidamente. No, dagli amici dello Zodi 105. Una cosa incomprensibile, tant'è, andiamo in onda quello che è successo, credo oggi, no, se non sbaglio, all'inizio addirittura dello Zoo, trasmissione di cui ho sempre parlato. Guerra, bene, nonostante, aspetta, nonostante, infatti non voglio fare nessuna guerra, per carità, perché le guerre con lo Zoo di 105 sono delle guerre perse in partenza, ma non perché sono più forti o più bravi, dialetticamente magari non sono nemmeno più bravi, perché semplicemente perché non ha senso, capito? È una cosa che non ho mai capito, quelli che vanno in guerra con lo Zoo. Comunque, cosa è successo questa mattina? Cosa è successo? Addirittura all'inizio del programma, che sento sempre, tra l'altro io sono uno di quelli che dello Zoo ha sempre parlato bene nei confronti di tutti i perbenisti, i puristi della radio, quelli che dicono, no, che gli schizzinosi, ho sempre detto che c'è della genialità pazzesca. Vabbè, ma tanto a loro che cazzo gliene frega, attaccano pure le persone che sono in realtà più vicine al loro modo di sentire, al loro modo di fare radio. Questo è successo a proposito della vicenda del coniglio. Prevedo veramente una puntata di quelle dove ci chiuderanno sicuramente. Cruciani ci ha provato stamattina, cioè ieri, insomma, a pubblicare la foto col coniglio morto. Sei veramente un coglione, Cruciani. Che cazzo fa? Ma ci siamo passati noi, abbiamo fatto una battuta di merda, ci hanno chiuso per un mese. Sì, non fare il coglione. Ma fatta apposta, abbiamo fatto una battuta del cazzo che è stata travisata. Questa l'ha fatta apposta, è impazzito. Sì, è proprio. Ma perché ha bisogno di fare ascolti, non se lo caga più nessuno. Cioè, alla fine lui ha preso una piccola fetta dello Zoo e giustamente ci ha fatto un format che funziona. È tutto, però sì, fa anche gli, cioè, così è troppo. Adesso, Cruciani, giù. Sì, ho visto. Ma visto. Che cazzo sta facendo? Perché? Allora, per chi non riconoscesse la voce, la prima è quella di Mazzoli, la seconda è quella di Paolo Noiso, non so come diavolo si chiama di cognome, non lo dico in senso dispregiativo, sennò qui iniziano, non sapeva, ha fatto finta di non sapere come si chiama, iniziano giù una tiritera pazzesca. Calma. E combattono però. Sì. Ma no, ma io, ma ripeto, io adoro. Bisogna passare le linee. No, ma io adoro. Ma io adoro, adoro. Solo che, vabbè, adesso poi dirò due cose, poi basta, poi chiudo, Crucis, che cazzo stai facendo? Perché fai? Eri divertente quando chiamavi i politici, li mandavi a fanculo. Perché sei messo a fare gli scherzi uguali allo Zoo? Perché così, Paolo, lo sai com'è. Però finché fai gli scherzi non me ne fotte un cazzo. Quando gioca con gli animali mi girano i coglioni. Quindi già c'hai i denti che non sono proprio del tutto a posto, caro Cruciani. Se vuoi che te li butti giù tutti, tu continua, che io non c'ho bisogno delle associazioni. Io vengo lì, ti do uno schiaffo in bocca e risolviamo la cosa. Massimo, gli tiri i capelli, Marco. Che già, guarda che c'ho un tacco 12 che se te lo infilo dentro una spalla fa malissimo. Stai molto attento. Il vetro della macchina con la mazza da baseball gli scrivi col rossetto stronza. Cioè, tu capisci perché non voglio il confronto, no? C'è perché... un bel clima, amico mio! C'è un bel clima lì. Poi dentro, ovviamente non fanno nulla perché sono tutte chiacchiere, naturalmente. Però due cose. Una a Paolo, che saluto. Beh, io sinceramente non devi essere tu a dirmi come devo fare la radio, come non la devo fare, gli scherzi, eccetera. I politici ce li abbiamo lo stesso, gli scherzi praticamente non li facciamo, non copio nulla a nessuno perché non mi interessa copiare. Poi copiare qualcosa, tutti copiano da tutti, in parte. E comunque non devi essere tu a dirmi come devo fare la radio. La facciamo tranquillamente noi, senza nessun tipo di imitazione, non ti preoccupare. La seconda cosa è che, amici miei, forse vi devo spiegare alcune cose, ve le dico in maniera molto chiara, ma lo dico agli amici dello Zoo come agli altri. Non è che noi abbiamo portato qui, almeno io, non è che ho portato un cadavere di animale, cioè non è che ho portato un coniglio morto che ho ucciso. Spiega, c'è una campagna pubblica. Allora, lo dico, proprio scandisco anche in italiano le parole così capiscono. C'è una campagna pubblica di due associazioni animaliste, la Lega Antivivisezione e un'altra associazione, che vogliono togliere il coniglio dalla nostra tavola. io in particolare, Parenzo non gliene frega niente in realtà, nulla, di questa cosa, nulla. No, comunque io in particolare non vuoi problemi nemmeno con gli animalisti, comunque no, lasciamo perdere. Ma tutta, io mangio carne, ma se l'ho detto in continuazione. No, no, no, va bene, allora io ho, ma non mangio il coniglio, non sono ebreo, ma che devo fare? No, ma, devo mangiare il coniglio, no, assolutamente. Io ho portato questo a scopo dimostrativo per fare una controcampagna. Conoscete cosa significa una controcampagna? Immagino di sì, no, perché siete uomini di mondo. Per dire no, il coniglio non va tolto dalla tavola degli italiani, ho portato un coniglio comprato in macelleria legalmente, cioè una cosa normale, legale, non ho sgozzato nessuno, non ho detto di prendere a calci gli animali, non ho fatto nulla di nulla. Cioè, odio, non sei il califfo dei conigli tu. Ma no, ma no, ecco, non toccherei un animale nemmeno morto, questo è il punto, cioè nemmeno mi dà fastidio alzare le mani su chiunque, figuriamoci sugli animali. E dunque abbiamo iniziato questa, spero fortunata, controcampagna che si oppone all'idea di queste associazioni animaliste di togliere il coniglio dalla tavola degli italiani. Basta, l'ho fatto in maniera chiaramente mediatica, portando questa roba qui in radio, facendomelo cucinare. Ma voi certamente, come dire, non mi dovete insegnare nulla da questo punto di vista, no? Cioè, non sapete benissimo come si fanno queste cose. E poi la questione degli ascolti. Perché, scusa, voi che fate? Pettinate le bambole? Cioè, gli ascolti, perché? Che, cosa fai che state a fare lì? Per la gloria? Non è, non è che leggono la Divina Commedia. Vai, su, dai, su. No, sarebbe bello, però. Che sì, sì, se qualcuno... Radio 105, come si chiama? Lo zoo legge la Divina Commedia. Dai, sarebbe meravigliosa, un'idea meravigliosa, però. Dai, sì, legge la Divina Commedia lo zoo. Lo zoo sì. Legge la Divina Commedia. Questo sì, dagli un'idea, dagli un'idea. Sempre 1-1 serata scudetto. Genta Pardo, dove siete? Genta Pardo, come si chiama l'altro che mi ricordo mai? Capuano, mamma Capuano, mia, tratti male le persone. Capuano, Genta Pardo, dove siete? Fermo. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Tutto ci vuole tranne già siamo in guerra pure col Vaticano, con l'universo mondo, per carità. Tu mi ricordi, sai i Blues Brothers? No, il film? Perché la guerra pure con lo zoo, no, dai, i nazisti, no, no, tu hai il Vaticano, no, no, gli poi, animalisti. L'ho sempre, zoo. L'ho sempre appoggiato, non hanno bisogno, adesso chi se ne frega. Pardo, però, eh? No, ma che c'entra Pardo? Stufato. No, dai, no, Marco da Treviso, dai, no, Marco. Siamo Pardo. No, voglio gli ascoltatori, diretta. No, Pardo, dai, Pardo, sta preparando la puntata di stasera, dai, Marco da Treviso, dai, sì. Aspetta un attimo. Pardo. Marco, dimmi, dai. Aspetta. Parenzo, non fare fai segui la trasmissione. Voglio dai. Chiamare il Pardo un attimo. No, no, no, no. Pardo, amico mio, sei in diretta. Bene, il coniglio è la cosa più buona aspetta. Che esista. Togliete Parenzo dalla cosa, dai Marco. Si dimmi. Può mangiare anche bollito per i bambini, i neonati, quando passano dal latte, devono essere sottostati. Si mangia benissimo, anche il brodo di coniglio è ottimo. Poi, voglio dirvi... Cioè, tu sei cresciuto a coniglio, in pratica. Ma porca miseria, la mia famiglia è cresciuta a coniglio. Guai, chi me lo tocca il coniglio, perché ce lo mangiamo tutto. I ragazzi sanno ucciderlo, sanno tagliarlo, sanno cucinarlo, e non è problema. Il figlio che è a Londra, che vi ascolta la sera, mi ordina a Natale coniglio col salmino. Quindi, ma certo, ma poi... ragazzi, ma di che parliamo? Ma, certo. ma questi qua devono farsi un giro per l'Italia, l'Italia ma vera, non quella che è nel loro cervello. Poi mi fanno incazzare, perché poi quando inizio, quando mi parte il, no, mi partono i due minuti, comincio a dirne di tutti i colori contro questi qua, Non mi devono fare incazzare troppo, sono li scateno l'inferno, la LAV e questi qua, li scateno l'ira di Dio se mi fanno incazzare. Il coniglio fa parte delle tradizioni culinarie italiane. Dunque non rompete le palle, non rompete, io voglio mangiare il coniglio, non voglio considerare, lo volete animare da compagnia, volete proteggerlo da chissà che cosa, benissimo, però noi ce lo mangiamo lo stesso, capito, chiaro? Marco, continua. Viva va. Il coniglio, ascolta l'ultima chicca, mio cugino che è in Francia, Alta Provenza, gli scoiattoli sono buonissimi da mangiare. Non spaventatevi. No, ma che no adesso ma io non lo so. Adesso, io... Non esageriamo non sempre. Però se li mangiano, compreso tutte le altre carni. Quindi le cose che vivono e che camminano, si possono mangiare. Uno vuol mangiarsi il porcellino d'India castrato, è buonissimo. Se lo mangia tranquillamente, non facciamoci questi problemi, per l'amor di Dio. Viva il coniglio comunque, tre volte viva il coniglio. Ma tutta la vita. Ciao Marco, ciao. secondo me Parenzo c'ha la tosse da sempre perché fuma dell'hashish, il cosiddetto libanaccio, libano, di scarsa qualità e che dopo essere stato fumato, insomma, lascia strascichi di tosse. Parenzo, cambia hashish. Hai sentito, l'ascoltatore ha dato una spiegazione di questa roba qua. No, ma non posso dirti che ti assicuro che non è così. Non fumo, a parte hash non l'ho mai fumato, semmai la ganja, cioè la marijuana, la gangetta. Ah. Ma vabbè, dai, una spiegazione della tua situazione, diciamo, è un anno praticamente che non fumo neanche nulla, neanche un tiretto di niente. No? A parte che è un mese e mezzo che non tocco neanche una sigaretta. Questo lo posso. Proprio non tocco una sigaretta da un mese e mezzo. Sarà ingrassato, fumo. Sicuro, sarà ingrassato. No, ma che ingrassato ben magnificamente, ma non tocco neanche una sigaretta perché ho ti tieni avuto... bene perché hai paura di essere tradito, hai paura che prima o poi imbruttisci e tua moglie ti mette le corna. Guarda, caro Cruciani. Vabbè, ma Balda, è giusto avere paura. Cruciani Balda, è giusto avere paura. No, Cruciani Balda, perché Cruciani Balda? Ma perché se c'è Ughi prima ha detto Cruciani è vicino a quello che pensa Balda? No, perché ti ascolta, sa come è il tuo, diciamo. Le perversioni, dire, le perversioni. Esatto, e forse per questo ti ha accostato al Monsignore. Al signore Gianni da Torino, vai Gianni. Mi ha scritto Pardo, quando vogliamo possiamo collegarlo. Gianni, buonasera Parenzo. Dimmi Gianni. Allora, io chiamo così per spezzare una lancia a favore dello zoo. No, ma non c'è bisogno di spezzare una lancia. Se loro dicono delle cose su di me, io rispondo perché non ho paura. Ho detto una cosa, secondo me è sacrosanta. Allora, io adesso ti spiego. Io faccio il camionista, quindi ascolto lo zoo, ascolto voi, ascolto anche altri programmi. Anche hanno ragione su una cosa, se mi permetti. Siete un po' cambiati, non siete più quella trasmissione cazzuta che eravate una volta. Adesso siete sempre lì a parlare di froci, di parlare di zii. Veramente ne abbiamo sempre parlato di froci. No, non è vero. Guarda Gianni, ci sono varie versioni. Allora, secondo me, tra l'altro, siamo molto più cazzuti adesso di prima, almeno io personalmente. Se tu ascoltavi la Zanzara 4-5 anni fa, poi ovviamente la tua impressione. Tra l'altro abbiamo già parlato anche altre volte. E ti dico una cosa. Dimmi. Se mi permetti, ti dico questo. Anche lo zoo ha parlato molto bene di voi. Giba era innamoratissimo di voi. No, è innamorato. Certo, vabbè, sì, adesso. Infatti non sta più allo zoo, però. Vabbè, ok, però per altri motivi, però è vero su una cosa, siete un po' cambiati. Ma tutti cambiano, amico mio, tutti cambiano. Ho capito, però posso, ma scusami, posso anche Monsignor Balda è cambiato. Esatto, cioè, tutti cambiano, Renzi pure è cambiato. Lascio io l'apparenza, a me, io sono dell'altra sponda, non sono di Renzi. Allora Gianni, che vuoi dire? Non ho capito, qui stiamo parlando però di un'altra cosa. Lascia perdere, stiamo parlando di una cosa molto semplice, di questa cosa qui, della fotografia che ho pubblicato. Io ho sentito oggi del coniglio qua. Qual è il problema? Facciamo per gli ascolti, ma che vuol dire? Che vuol dire? Una battuta stupidissima per un coniglio, per un gatto. Ma chi se ne frega? Li hanno chiusi. Ma chi se ne frega? No, come mai? Ma non è quella la protesta, amico mio, non era quella. Ma dice. Ma non è questo, perché. Ma se ha detto, ma l'hai sentito o no quello che abbiamo mandato? Io non avrei chiuso né allora né. Ma figuriamoci se io sono a favore della chiusura delle cose, ma assolutamente no. Scusa Gianni, abbi pazienza, ma se hai sentito o no, se toccano gli animali, pubblicare quella fotografia, vengo là, ti do un calcio in faccia, a parte che sono tutte cazzate, eccetera, eccetera. Ma sì. E allora di che parli? Stai parlando di un'altra cosa. Qui nessuno vuole chiudere nulla. E poi comunque no, a me, guarda, francamente nulla. Io ti sto solo dicendo che secondo me. Ma io non sto attaccando nulla, sono loro che hanno attaccato noi. Io ho risposto. Secondo me, Cruciani, eravate più cazzuti prima, lasciatelo dire. Ma no, da che punto di che vuol dire la parola? Piacere, la parola cazzuto, la parola cazzuto cosa vuol dire? Ma vuol dire che prima eravate più battaglieri, adesso più battaglieri. Ma io faccio l'inferno molto più adesso di prima. Ma che ma dici? Sì, ma su che cosa? Sul finocchietto che è su Barilla che dice su che ma sei rimasto 2 anni fa. Barilla è successo 2 anni fa, amico mio. Sì, Gianni, 2 anni fa. La pubblicità, ti abbraccio. Da un bel po' che ti ascolto. Ti abbraccio, Gianni. Sugli zingari, ciao. Invesco per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Questa te la devo dire e ti giuro che è vero. Oggi stavo trombando, posizione ardita, allora si tromba, sai no come si tromba? Ok, perfetto. A un certo punto io faccio siamo al top. E la mia ragazza fa ma cazzo, ma sto cruciale pure mentre si tromba. Perché questo? Perché ogni volta che praticamente stai in macchina con me, io metto il podcast della Zanzara. E lei quindi ti conosce. Insomma, oggi mi hai fatto compagnia mentre trombavo. Grande Cruciani, il crucianesimo avanza. Cruciani, ti amo, perché sono sempre d'accordo con te. Mi è venuto a noia questi pervenisti ottusi, non posso dire più parolacce, via, anche perché non ho la dentiera, ho paura tu non mi capisca bene. Ti voglio tanto bene, un pochino anche a Parenzo. Ciao, io mi chiamo Giuseppa. A Cruciani, calcola che sto a Londra, no? E ho scoperto che c'è una specie di club di orge che si chiama Killing Kittens, che però non puoi farle, non puoi partecipare se non sei sopra un certo standard di bellezza, cioè devi mandare una foto a torso nudo. Prova, no? Vedi un po' come va a finire, magari ti chiamano. Guarda che qua a Londra ce ne stanno, sono un sacco di russe, un sacco di georgiane, gliela mollano, bella. Per chi mi ha preso questo qua? Scusami, David. Per chi mi ha preso questo signore da Londra? Non ti lamentare di quello che crei, perché se crei mostri, se crei quello arriva. Non ti devi lamentare di niente, devi prendere. No, ho capito, questo mi ha preso. Questo mi ha preso, dico, presentati a un club. Conosco un club a Londra, se ti fai vedere a petto nudo, prendono solo quelli piacenti. Vedi. E beh, che tu hai alimentato questo. Però bello ultimo. Quello là che dice di fare l'amore, dico all'amore, insomma, trombava con la Zanzara. Beh, bellissimo. Che dice siamo al top. Tu non lo dici mai la tua fidanzata siamo al top? No, forse no, io nemmeno. Sì, no, siamo al top. No, dico, ma anche quando fai l'amore? Eh? Anche quando fai sesso, no? Adesso ti pare che dico siamo al top? No, appunto, no, non lo dici, questo dicevo io. Balda, monsignor Balda, dirà. Siamo al top. Beh, amico mio, siamo al top, dirà. Tu pensi a qualcuno che dice siamo al top, dai. Non è possibile, io non ci credo che quello dice. Guarda che personaggio del momento, monsignor Balda, però. Tu sottovaluti monsignor Balda. No, chi lo sottovaluta? Il coso Vaticano Hot, ma è una storia pazzesca. Tommaso da Milano, vai, 800 24 00 24. Tommaso, dai, dovremmo fare una... Buona, velocissimo, buonasera. Sì, dimmi. Dimmi. Ah, velocissimo, sulla questione animalista. Allora, una mia esperienza velocissima. Io nasco carnivoro, sono nato, cioè adoro la carne, la mangerei ovunque, ma sono un filosofo politico, mi hanno insegnato, io seguo molto la ragione purtroppo, ma questo è un proprio mio problema ossessivo, e anche se sgozzerei veramente, perché non ho empatia, troppa empatia per gli animali, mentre per gli uomini molto sì, un capretto, la ragione, cioè veramente tutti gli studi che mi hanno fatto fare sull'etica animale, che adesso è molto forte, ad Harvard, ovunque, sta spingendo, forse è anche un mainstream adesso, però sta spingendo tantissimo, mi ha fatto purtroppo, sei anni fa, cambiare alimentazione. Per una questione puramente razionale. Quindi io che sono un liberale, libertario, e cerco sempre il dialogo, consiglierei semplicemente non tanto di scannarsi, ma di parlarsi e di leggere un libro che secondo me è un masterpiece della filosofia. Vabbè, adesso però che cosa dobbiamo fare? Sentire i consigli di libri su... No, io volevo semplicemente dire che la differenza, che io non sono, cioè non è che l'ho fatto per empatia, a me mi hanno a livello argomentativo hanno delle argomentazioni molto molto forti gli antispecisti, veramente gli forti, antispecisti, tanto che... non la posso sentire questa cosa qua, scusami. Non lo puoi sapere, allora, no, no, gli antispecisti, no, allora, non posso sentire questa espressione, gli antispecisti, vero, cioè sono quelli che sostengono in sostanza che tra esseri umani e animali non c'è alcuna differenza, capito? Questa... non è proprio così facile. Vabbè, insomma, adesso io riduco perché la gente capisca, altrimenti dovremmo entrare in tutte. No, però io volevo solo portare il mio esempio più pratico. E allora sei diventato vegetariano, allora? No, semplicemente appunto perché ci sono comunque sia una letteratura molto molto forte, veramente molto... Vabbè, ma questo lo sappiamo, Tommaso, ma chi se ne frega, ma qual è il punto? No, il punto è che comunque sia, se fossi nato 200 anni fa, gli schiavi neri erano visti come delle bestie e... Ma tu stai paragonando il cambiamento dello schiavismo, l'eliminazione dello schiavismo con l'eliminazione della carne. Cioè sei completamente fuori di testa. Cioè stai paragonando l'eliminazione dello schiavismo con l'eliminazione della carne, perché sostengono questi pazzi scatenati che la carne, oltre che avvelenare il corpo umano, peggiora le condizioni... peggiora le condizioni del pianeta, chiaro? Questo sostengono, ovviamente si possono sostenere le tesi totalmente opposte, come è evidente, ma non è questa la sede. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools. Allora ragazzi, un personaggio fantastico transitato la zanzara nei giorni scorsi è stato il signore di Bari, Corrado. Corrado da Bari, di professione, come possiamo definirlo, Parenzo? Come lo possiamo definire? Amante del cunilingus. Amante del cunilingus. Sai che io su questo lo definisco molto. No, ho capito, però è passato la zanzara, c'è poco da fare. No, è passato questo. È transitato dalla zanzara. Però non è un caso. Non è un caso che nelle trasmissioni di Barisoni non transitino personaggi professione, di questo calibro, e non offendo nessuno. Professione leccatore di figa. Vabbè, ma però è così, ragazzi. Ho capito, ma che ci posso fare? È così, dai. Tipi da zanzara. Io praticamente nel corso degli anni ho acquisito una grandissima maestria nel cunilingus. Non sono diventato esperto, io sono proprio, sono un maestro, perdonami, non vorrei fare il presuntuoso. C'è chi usa il cunilingus e chi diventa un maestro. Io potrei forse darci anche qualche piccolo consiglio. A un certo punto ho focalizzato, mentre stavo praticando, mi sono reso conto che praticamente stavo considerando la vagina una bocca. Ma sui 1.500 così riesco a tirar su, perché io poi ho un tariffario, 100 euro all'ora, poi faccio anche dei forfait, degli sconti. Nel momento in cui tu hai visualizzato la vagina come fosse una bocca e la clito come se fosse la lingua, è come se baciassi, cioè, ci sono tanti artisti del bacio. Quando ti dicono sai baciare benissimo, tu ad esempio, te una donna ti ha mai detto che sai baciare benissimo? Ti tiri la clito con la tua lingua, le sue labbra diventano le labbra di una bocca, poi ci sono i dettagli, lo sguardo, il respiro. Ma io mi sento un benefattore dell'umanità. Tipi da zanzara. Allora, Salvatore da Roma. Salvatore da Roma. Vai. Pronto Giuseppe, buonasera. Dimmi. Allora, innanzitutto qui, come si suol dire, capito veramente a puntino perché me l'hai lanciato. Io era di quello che volevo parlare per quanto riguarda Corrado da Bari, come dire, esperto di... È un argomento che interessa molto Parenzo, ci ha riflettuto molto nel fine settimana, mi ha mandato moltissimi messaggi. Giuseppe, più che altro sono qui in strada, ho detto con i lingus, c'era un gruppo di tre ragazzi, mi hanno guardato malissimo. Vabbè, non insomma. Penso perché ti hanno guardato male. Pensavano che avessi parlato di una della parola, quindi. Ma no, al contrario, dovevano guardarti bene, perché male, scusa. Ma insomma, comunque io ti volevo dire innanzitutto dov'è Parenzo? Parenzo è qui, dove vuoi che sia? Studio a Roma. Vabbè, Salvatore, forza. No, più che altro voglio dire, come puoi tu ogni volta criticare Giuseppe che parla di determinati argomenti dicendo ma questa è ancora radio, la Confindustria, se ci fossi squint, eccetera, eccetera, quando sono due mesi che tu passi tutta la trasmissione a scatarrare nei microfoni di Radio 24. No, però vabbè, queste sono due cose diverse. Lei su questo è ingeneroso, sì. Perché avendo io avuto questa mal di gola, questa bronchite, sì, con soffio al polmone anche, se vuole il dettaglio, insomma, no? Quindi questo cioè, è stato... Una polmonite, sul serio? È una specie di polmonite. No, non è polmonite. No, ti faccio, pubblicherò ufficialmente i dati. Non avendo però chiesto neanche un giorno di ferie netta. Lo so che tu, quando senti la parola diritti, ferie, non avendo... Per esempio, io sono a favore di quello che ha detto Poletti, dell'orario Poletti, di lavoro. Roberto Poletti? No, quello Poletti, ministro del lavoro. Signor Roberto Poletti, della quinta colonna, dubito che è ministro, signor... Però appunto, non potendo quindi fermarmi, ma è bronchite. Io domani pubblicherò ufficialmente i dati del referto della mia malattia e non mi sono mai fermato. Nonostante questo vengo accusato di scatarrare. Ma di chi stiamo parlando? Ma sono venuto qui sul mio posto di lavoro senza lamentarmi. Vabbè, neanche Salvatore, un giorno. Allora? Giuseppe, allora senti, schiavisti. Una cosa, che un aspetto di Corrado da Bari che tu non hai affrontato. Quello del forfè. Cioè, molti mi hanno detto perché non gli hai chiesto che cosa, in che cosa consiste il forfè. Effettivamente questo è vero. No, cosa consiste il forfè? È più che altro, è anche il tipo di clientela. Perché io dubito fortemente che alla porta di questo signore si presentino delle fanciulle di 20-30 anni per farsi somministrare delle determinate prestazioni. Vabbè, ma indagheremo, Salvatore, non si preoccupa, perché tu hai dubbi su questa cosa qua, non ho capito. No, è perché io comunque per una cosa così è un po' il mito, come il mito di chi vorrebbe fare il ginecologo quando comunque il ginecologo si trova davanti. Tu in realtà vorresti fare lo stesso lavoro di Corrado a tempo perso, come secondo lavoro, faresti il leccatore. Ma più che altro io so che mi aspetterebbe insomma roba abbastanza matura, stagionata. Capito? Vabbè, Salvatore, ciao. Grazie. Allora, il Papa ha detto che è stato un errore scegliere Monsignor Baldai la Ciauchi. Allora, l'ha detto oggi, adesso. Devo dire che è un'ammissione di responsabilità. Perché ha sentito la zanzara? Può darsi. Questa è la notizia. È un'ammissione di... D'altra parte al Papa danno fastidio le zanzare soprattutto. Come ha detto, cioè, ho più timore delle zanzare che dell'ISIS, disse il Papa. La realtà è questa, che nessuno per la nomina di due persone... che certamente sono due persone, come dire, che non sono proprio, come dire, perfette come profilo dal punto di vista del Vaticano, nessuno se la prende con chi l'ha nominati, cioè il Papa. Fino adesso nessuno se l'è presa con il Papa. E come si fa a prendersela col Papa, che intanto è infallibile per definizione? Questa volta non è che ha fallito lui. Ho capito. Ma se uno dei suoi più stretti collaboratori... Ti pare normale che Monsignor Baldà invece di parlare con Dio o col Papa si mette a chattare con Gianluigi Nuzzi? Con tutto il rispetto per Nuzzi, che fa benissimo. No, lui chatta, manda dei messaggini con Nuzzi. Ma che va benissimo, Nuzzi fa benissimo. Monsignor Baldà. Ma che c'entra questo con Papa Francesco? No, però? Ma non è un profilo adatto, è normale. Uno così non deve chattare con Nuzzi. Ma non deve messaggiare con Nuzzi. Pare, deve parlare con Dio oppure al massimo ma col perché? Papa. Ma no, questo ma non come credo. No, assolutamente. Allora, però, messaggi che mi sono arrivati sulla vicenda del coniglio. Allora. La vita di quel coniglio vale 1000 volte più della tua. Un tale che si chiama Vincenzo Piccolo. Luigi Favali, quando un terremoto colpirà quel coglione di Cruciani, spero che un cane della protezione civile lo trovi e gli pisci in faccia. Salvatore Guastella, smettila con la coca. Sempre se sono veri questi nomi, Una tale Elisa Clerici. La prossima volta mandaci una bella foto con te in una bella savana con animali liberi di muoversi. Una tale Maria Jenny Raimondo. Che maschietto cerebroleso senza coglioni il tipo. Ti impallinerei la testa vuota che ti ritrovi, almeno sarebbe piena di piombo. Poi impalarti sarebbe la giusta morte. Una bella spranga di ferro su per l'ano. E naturalmente scuoiato vivo con quella creatura morta lì. Sei un pezzo di merda. Andrea Siviero. Voglio vedere la tua carcassa in mano a qualcuno dopo aver ricevuto atroci sofferenze. Muori, merda. Brenda Mormile, sei proprio un gran figlio di Troia e morirai molto male. Si chiama karma. Ma perché sta gente così? Maria Teresa Ciconte, sei un coglione sfigato e fallito, un volgare individuo che si mette in mostra con altrettanto volgari gesti che solo uno sfigato, squallido, insulso soggetto come te può fare, malgrado non ti caghi nessuno. Poi un'altra che si chiama Valentina, un poveraccio con il cazzo piccolo e la madre che faceva la troia invece di insegnarti l'amore per chi ti sta intorno. Ammazzati. Brutto. Questa è la gente, capito? Questa è la gente che... dai. Marco, provincia di Viterbo. Ma noi andiamo avanti lo stesso, nonostante le minacce, nonostante le proteste, perché la nostra battaglia è per mantenere il coniglio sulla tavola degli italiani. Certo, per cucinarlo, per mangiarlo, bisogna che muoia. Non c'è dubbio su questo, non c'è alcun dubbio. Marco, provincia di Viterbo, dai. Ciao a tutti. Allora, io e la mia ragazza siamo stati attaccati da un gruppo di animalisti perché abbiamo chiesto ad una ragazza che si occupa di volontariato dei cani se dovevamo dividere i nostri cani che si stavano accoppiando, comunque nel periodo lei è in calore e sono due cani bellissimi che noi amiamo moltissimo, e lei si è attaccato dicendo che i canili sono già pieni di cani, che questi cani che poi nasceranno sicuramente andranno nei canili, facendoci tutti i discorsi sulla genetica, sulle probabilità di accoppiamento, cose, sembrava di parlare con i nazisti parlavano così. Dei fondamentalisti. Sono pazzi. Io e la mia ragazza amiamo i nostri cani, io gli amo un bene nell'anima, abbiamo anche ma certo, però volevi separarli, perché volevi separarli? Perché insomma lui era molto insistente, nel senso lei come si sdraiava, lui abbaiava e voleva che lei si da la femmina si alzasse per accoppiarsi, magari tutto questo avrebbe creato uno stress per lei, quindi era notte, era sabato notte, erano due di notte, non sapevamo a che chiedere, lei ha chiesto così, quindi vabbè, ma è così. Adesso contro questi animalisti io sono. Va bene Marco, grazie, grazie. Carmelo, Agrigento, vai, anzi prima Alessio, Milano, Alessio. Pronto Cruciani? Dimmi, dimmi Alessio. Ascolta, visto che ti hanno attaccato, ti dicono che non sei cazzuto come prima. Ma cosa chi che ha detto? Ha detto l'ascoltatore di prima, dai, su. Vabbè, è cosa che non è vero comunque. Facciamo una cosa, chiamiamo Mazzoli adesso. Ma no, ma chi se ne frega di chiamare Mazzoli? Dai, chiamiamo Mazzoli. Ma non me ne frega niente di chiamare Mazzoli, non me ne frega perché nulla, no, ma con tutto no, il rispetto, non me ne frega. La provocazione. Ma non me ne frega niente di fare la guerra o di andare a discutere. Ma chi se ne frega, se no non lo dicevi, scusami, in diretta. No, lo dai, dicevo, ma che c'entra? Che vuol dire? Cioè, ho detto una cosa perché è successa, è successa e ho risposto, per cui non me ne frega niente di proseguire, sì. Questo intendo, non me ne frega niente di vabbè, proseguire comunque con io vi ascolto perché siete cazzutissimi. Ciao, ciao Alessio, dire. Carmelo, Agrigento, vai Carmelo. Sì, esatto, allora intanto io vi ascolto sempre, a parte l'altro che ti collabora che non mi piace affatto, anche perché vabbè, quello sì, no, ma neanche a me non piace. Allora? Allora, dicevo che il coniglio, specialmente alla cacciatoia, è buonissimo. E poi finiscila con questa Fiorentina col Sassuolo, dai, smettila per favore. Sassuolo Fiorentina. Vabbè, che 1-1. Vuoi dire, dai, Carmelo, che vuoi dire, dai? Dal Mapei Stadium. Carmelo, se n'è andato, ragazzi. Mamma mia, mi fate finire male queste cose, mi state sulle palle quando mi fate finire la trasmissione così stanco, e non rispondete al telefono, guarda, vi odio. Anzi no, vi amo, a domani 18:30, ciao. Ma bisogna sentire il contatto bisogna sentire. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.